vieni qui a far diventare proletari due come noi. A parte il fatto che andava a fare una bella settimana in cantiere a tutti e due, non vi farebbe manco male. Ah, tu dici? Io ci andrei volentieri. Non l'hai mai fatto. Lui le mani. Ce vado io, ma ce vado io. Non hai mai lavorato in vita vostra, andate a rompere gli uni a quelli che lavorano. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Scusa un attimo, David, perché se tutto il mondo, tutti per strada, negli autobus, nei bar, nelle macchine, hanno in testa il trasferimento che ora è saltato, come avete sentito, tra Inter e Juventus, Guarin, Vucinic, bisogna parlare del signor Cooperlo. No, tu spiegami per quale motivo. Cioè, secondo te c'è una persona normale oggi? Normale. A me interessa più il caso Cooperlo. Lo so, però c'è una persona normale, a parte i grandi giornali, sì. Il mondo che conosciamo, l'informazione, il sì. giornalismo. Una persona normale che si appassiona oggi alle dimissioni di Cooperlo. Detto con tutto rispetto, per carità. Beh, io so di non essere una persona normale, quindi io sono tra quella minoranza che invece che desidera oggi... occuparsi del signor Gianni. No, ma io ho grande rispetto del signor Cooperlo, del signor Cooper, per carità. Però, capisci, non è che si è dimesso il segretario del Partito Democratico, che pure, diciamo, non è che smuove la pancia dei camionisti, il presidente del Partito nostri amici tassisti che sono all'ascolto, delle famiglie che sono a casa, delle persone che sono con l'amante in albergo e restano sintonizzati con la zanzara. Ma non è vero, questo sì, ce ne sono un sacco, li conosco io, te lo dico, c'è un sacco di gente che va con l'amante in albergo prima di tornare a casa e alle 6:30 poi. L'albergo. Ma perché che categoria? E sono sintonizzati con la zanzara. Comunque, queste persone qui certamente sono totalmente disinteressate alla vicenda delle dimissioni da presidente del Partito Democratico. Noi però, siccome è la radio dei Confindustria, come sai, no? O no? Sì. È la radio dei Confindustria o no? Sì, il signor Squinzi, insomma. Ma che c'è? Squinzi è il proprietario, è il presidente del proprietario. Ma io mi identifico molto con la vabbè, ho capito, è il presidente dei Confindustria. Non c'entra niente, perché devi sempre nominare i protagonisti che poi dai fastidio? Cioè... Casa di vetro, ma perché deve casa di vetro? Sì, d'accordo, però siccome la radio adesso Confindustria... fai ridere. Sì, eccolo, appunto. Ancora, fai ridere tu quando conducevi il TG1, hai capito? Allora, basta. Me ne vado significa Cooperlo. Ora, uno potrebbe dire Cooperlo chi, oppure è la prova dell'esistenza di Cooperlo, come ha detto qualcuno, no? Questa è carina. Non è male questa qua, questa eh? È buona. Non è mia. Però, vabbè, ricapitoliamo. A un certo punto Renzi, che in questo momento è numero uno, perché dice grande decisionismo di Renzi che sconvolge il Partito Democratico, partito invece abituato a tutte queste cose, no? Decise nelle segreterie, di nascosto, tutte queste cose felpate, dico e non dico, apro gli spiragli per mille modifiche. Allora lui ha detto, senti, questo è il pacchetto, no? La legge elettorale, la Costituzione, o questo, tutto così, oppure nulla. Amico mio, Renzi, sentiamo su Cooperlo, eh. Aggiungo, Gianni, te lo dico con amicizia, questo tuo riferimento esplicito al tema delle preferenze o delle primarie l'avrei voluto sentire dire quando, non solo tu, insieme ad altri, vi siete candidati senza passare dal passaggio delle primarie la volta scorsa. Perché se me lo dice Fassina che prende 12.000 voti, è diverso che se non me lo dice anche uno di quelli in quota Renzi che è entrato con il listino. Capito? Beh, c'ha ragione. Pare. Ma c'ha ragione su questo. No, scusa un attimo, no, abbi pazienza. Non voglio ingaggiare una discussione fino alle 21. Non la ingaggiamo. Te lo prometto. Non la ingaggiamo. Ma che? Te lo prometto, Cosa ha fatto? È stato sgradevole? È stato scortese? Meglio no, così. In politica esiste la sgradevolezza. Ma Gianni Cooperlo ha espresso un parere tecnico sulla legge elettorale. Fine per me della discussione. Che c'entrano le primarie e il metodo di elezione delle primarie? Non c'entra. Vabbè, niente, chiudiamo, prosegui, questa cosa. Ecco, bravo, meglio. Oh, pari, dai, eh. Formigoni ritorna sulla cosa della Minetti come se lui fosse, come dire, estraneo al fatto che la Minetti era nel listino bloccato, ma era il listino del presidente, in teoria nel listino del presidente ci vanno le persone che sono scelte dal presidente, però lui dice me l'hanno imposta Don Berzè, Berlusconi, quello che è. E dunque lui dice le liste bloccate favoriscono tante Minetti, mi batto per non avere più Minetti. E Formigoni, io dico una cosa però, ma tu quando mai ti sei battuto contro liste bloccate? Quando mai non hai fatto una battaglia quando il tuo partito comunque ha accettato le liste bloccate nel 2005? Non hai fatto nessuna battaglia. Stavolta non c'è. Capito. È proprio per questo, per non avere più i casi Minetti, ho che capito. Io mi batto con le liste bloccate. Il problema, quello che avremo casi Minetti a destra e a sinistra. Quello che dice questo Frecciero. A grande son certo che lui capirà e mi saprà perdonare. Ho deciso. Show di Sgarbi, show di Sgarbi. Ieri sera a Piazza Pulita, eh. Sentiamo uno Sgarbi contro Percero, dai. Vedo ancora la differenza tra destra e sinistra. No, assolutamente. Passo. No, aspetta, no. Mi lasci parlare. No, dimmi. Oh. Renzi è destra o sinistra? Renzi è destra o sinistra? Destra. Destra, eccoti qua. Allora che cazzo dici? Sta a sinistra ma è di destra. Oh, quello che sono dicendo è di destra. No, porca puttana. È la divisione che non appassiona questa. Ora Sgarbi sulla Cancellieri. Gli europei riderebbero di noi, guarda lì gli italiani. Hai visto la Cancellieri? Ha votato 8 mesi fa la Cancellieri. Non sono stati capaci neanche di mettersi fanno d'accordo. Fanno cagare dei ministri di Napoli. Fanno cagare. Smettila, smettila. Ma non è così, ma non è così. Sei il ministro. Ma non è così. Saresti il ministro naturale. E poi uno fatto per fare il celeste. Ti ringrazio. C'hai dei caccatori di ministri. Ti ringrazio. Dei morti di sonno. Ti ringrazio. Però la politica è anche responsabilità. Alla giustizia la Cancellieri. La politica è anche responsabilità. Cagare, non è che fa, prima ha detto fa cagare, poi a cagare la Cancellieri. Ma scusa, ma se qualcuno vuole bandire noi dalla comunità, poi dirò due paroline sul signor Lerner, sul signor Lerner. Anzi, che le dico fatto? Subito, le dico subito. Che ha fatto? Allora, signor Lerner, semplicemente perché noi ogni direi tanto l'ottimo che adesso sto sfogliando qui il mio taccuino, sto sfogliando il mio taccuino qua, Sfogliando il mio taccuino. Eccolo qua, Lerner Borghezio. Siccome noi ogni tanto intervistiamo il signor Borghezio, sono cazzi nostri, Lerner. Se intervistiamo, scusaci, se intervistiamo Borghezio. Sono affari nostri, sono affari nostri. No, perché a un certo punto mi sono anche rotto i coglioni degli insulti o comunque delle parole sprezzanti di questo Gad Lerner, che io, questo, per cui ho grande rispetto, per cui ho grande questo. Rispetto, però non ci deve rompere i coglioni. Lui esprime il suo parere come sì, perché, facciamo però noi. Però a me mi rompe i coglioni ogni tanto. Poi permetti o no, mi rompe i coglioni. Ha detto, scusa, ma io... che siamo una. Facciamo un sodalizio insieme a Borghezio di volgarità e degradazione. Facciamo la zanzara condotta dal sottoscritto insieme a te. Siamo un sodalizio con Borghezio di volgarità e degradazione. A parte che lui non conosce la nostra ironia, non sa, ma chi se ne frega. Poi voglio semplicemente ricordare al signor Lerner, Gad Lerner, di cui ho grandissima stima dal punto di vista professionale, grandissima stima, che lui, lo ripeto per l'ennesima volta, invitava Borghezio fino a quando non si è rotto le scatole, come ci romperemo noi prima o poi le scatole, perché non è che siamo fedeli o siamo, no, o siamo fratelli, eccetera, siamo semplicemente dei conoscenti dal punto di vista professionale. Allora, lui invitava Borghezio sempre, possiamo anche contare le volte, all'infedele, facendolo passare come un professore di Padania, come uno statista del nord. Chiaro? Allora è meglio tirare fuori il vero Borghezio o farlo parlare come se fosse un genio, come se fosse un professore di filosofia? E dai, su! Invitava sempre, adesso vado a ripescare tutte le volte in cui lo invitava come lo presentava. Sì, questo è vero, che però tutto. Borghezio dica cose degradanti, ma questo, questo a mio avviso. Ma questo, lo pensi tu, va benissimo, ci sì, può essere, io questo lo penso, ma ci può essere una discussione infinita su questo. Io questo lo penso. Ma, ma lo pensi, ma perché lo devi dire? Perché devi porgere sempre l'altra guancia? Dico, ti danno uno schiaffo e perché tu io glielo dico, porgo l'altra perché guancia. Perché io lo dico anche mentre l'ho intervisto che dice cose degradanti. Sì, ma a me mi sono rotti i coglioni di questi qua che fanno i fenomeni, la volgarità, la degradazione. di criticare come facciamo noi le critiche. Quando invitava il violento, come dice lui, il volgare, eccetera, eccetera, in prima fila, facendolo passare come uno statista. E basta, no? Quando uno si rompe i coglioni, si rompe i coglioni. Per la vicenda Cabobo, abbiamo invitato un grande personaggio, Parenzo. Oh, un grande personaggio. Magari qualcuno... Secondo te chi ho invitato a commentare questa vicenda? Non lo so, potresti aver invitato, che so, il perito che ha detto... No, nessun perito. Che ha detto che Cabobo non deve stare in carcere. Potresti aver invitato... Chi possa aver invitato? Qualcuno di... No, di Amnesty International, non no, credo. No, non ho invitato una Amnesty, per carità. Non per credo. Carità, qualcuno per che carità. Si occupa di diritti umani neanche? No, nemmeno. Guarda, nemmeno. Non lo so, però tremo un po'. Tremi a sentire la voce del popolo, cosa dentro no, pensa no. la gente no. della vicenda no. Cabobo. Questo non tremo. Della vicenda Cabobo. Questo no, questo non mi spaventa. Beh, il conduttore di Radio Padania, uno dei conduttori di principali. Radio? Padania? Padania, perché cosa dici tu? Che radio... No, è Radio Cucuscla. No, non è Radio Cucuscla, è Radio Padania. No, Radio Cucuscla. Sammy Varin, buonasera. Buonasera a tutti. Siamo agli antipodi. Io vado in onda la mattina dalle 6 alle 7:30 del mattino. Marchetta, e voi però, la scusi, sera. Scusi Sammy, ma non c'era bisogno. La marchettina con 2 milioni di ascoltatori. L'avrei detto io, caro Sammy, per carità. Non c'è problema. Allora, agli antipodi, cioè, tu vai in onda la mattina e invece vai in onda pure la sera. Siamo qui. Culturalmente. Scusa, agli antipodi. Che pensi della vicenda Cabobo? Secondo te che fine dovrebbe fare Cabobo? Non so, solo questo, e poi ti... Allora, prima di tutto devo decidere se chiudermi in un isolato silenzio oppure no, perché già non è giornata. Poi mi dovete dire com'è finita la storia della querela. C'era qualcuno che mi voleva querelare. Parenzo ancora deve decidere. No, in realtà. Ti ho detto, guarda, io alla fine, Cruciani lo sa, io le minaccio sempre quando qualcuno supera il limite. Poi alla fine, un po' per pigrizia e un po' per altro, non le faccio mai. Anche Cruciani perché ti ho chiesto scusa ufficialmente. Sì. Hai detto una cosa molto pesante, ma non voglio tediare i nostri ascoltatori su quello per cui mi hai accusato. Vabbè, non ce ne frega niente. Di aver mercanteggiato posti dentro la Lega, cosa che non ho mai fatto, pur aver scritto un ottimo libro. Non ti vogliamo. Ma bravo, tu questo bravo, hai detto. Bravo, questo parliamo non di cose interessa. Serie. Parliamo di cose no, ma serie. Allora, tu che cosa faresti con Cabobo? Io questo voglio capire. Allora, oggi su Facebook circolano dei volantini con la foto di Berlusconi e la scritta 7 anni per una scopata, la foto di Corona 10 anni per delle foto e la foto di Cabobo libero per aver ucciso 3 persone appiccionate. Dunque secondo te? Secondo me... Che fine dovrebbe fare? Meglio che lo facciamo fuori? Nessuna fine terribile, semplicemente... Ma tu sei a favore della pena di morte? Minimo di giustizia, perché chi fa un atto così grave deve andare in galera. Chiunque fa un atto così grave, chiunque uccide, deve andare in galera e in galera ci deve rimanere. Però scusami Sammy, questo non è che lo liberano, il signor Cabobo. Vai in un... Sammy, lo devo chiamare signor Barin. Come lo devo chiamare? Barilla, mi chiamano Barilla, Barin... Balilla semmai, Balilla, non Barilla, Balilla. Senti, ma allora in poche parole c'è un'attenzione incredibile per tutti questi 60.000 sfortunati che stanno in carcere, stanno male, d'accordo, sono d'accordissimo, bisogna liberarli agli arresti domiciliari, magari come quel Rom, vi ricordate quel Rom che era agli arresti domiciliari dalla sua casa a Picco sul Mare, ve la ricordate questa cosa? Sì, ricordo bene. Allora, l'attenzione intorno a tutti questi personaggi che hanno sbagliato. Però scusami, Sammy, uccidendo. D'accordo, uccidendo. Ma questo va in un ospedale psichiatrico, cioè va in un ospedale criminale, cioè non è che lo lasciano libero per strada, Cabobo, bravo, capito? Ma neanche gli assassini adesso vengono scarcerati, non li fanno mica ciabattare sotto casa nostra. Ah, secondo te scappa, secondo te invece la prima occasione, se non è ben guardato, scappa, dice, se non è proprio in galera. Diciamo che la sensazione che abbiamo è che non ci sia più una punizione per chi fa dei reati. Ma insomma, tu la pena di morte per personaggi come Cabobo la reintrodurresti o no? Guarda, dimmelo sinceramente. La tentazione ci viene, ma non la facciamo perché siamo progrediti, a differenza di alcune popolazioni del mondo, siamo progrediti e ci piace. Cioè, a differenza del Congo, per esempio, a differenza del Congo, no? Ho detto di alcune popolazioni del mondo. Ma non fare immoderato adesso qui il traffico. La Kieng, vi dico io cosa ne penso. Dopo, aspetta, traffico. Le zanzare di casa mia. Sei ancora a casa? Se non ci cacci tu, caro senatore Dell'Utri, Ottima trasmissione, sempre la migliore. Vabbè, questo poi bisogna vedere, adesso non ci sbrodoliamo addosso. È con noi uno dei conduttori di Radio Padania, detta Radio Cux Clan da Parenzo. Certo. Cioè, Sammy Radio Vai... Boxer Verde, anche volendo. Che Radio vuol dire? Boxer, scusa, Verdi. Fai capire. Radio Boxer Verde. Ah, quelli di Cota. È sì. più facile per loro parlare del caso Cabobo che non un bel filo diretto. Io lo sfido Sammy Varin a invitare Cruciani e me a Radio Bao, anche da solo a Radio Padania, a parlare dei boxer verdi del signor Cota, anziché mettere in discussione le perizie che vengono fatte sulla salute mentale del signor Cabobo. Si sbronzano di me e ma su... che c'entra la Chienghe con Cabobo? Scusa Sammy. La Chienghe, a mio parere, è un mio parere naturalmente. Tuo parere, è frutto, sì. Beh, certo. È il frutto della politica buonista e marxista. Sì, marxista. Gli operai non votano più la sinistra e voilà, signori e signori, la sinistra sposta la sua attenzione sui nuovi poveri, sulla nuova fonte di reddito e di voti che sono gli immigrati. E il frutto finale, la Chienghe, perché il tutto è partito molto molto prima. Sai che non ho capito bene, cioè lui dice che la sinistra per prendere voti, siccome non li prende più dagli operai, fa politiche filo immigrati, perché così gli immigrati voteranno, questa è la tesi del signor Varin. Beh, insomma, voteranno. Sappiamo da chi sono gestiti i centri di permanenza, no? Tu ti consideri italiano? Ma io sì, io sono italiano. Italiano, sono, meno male. Sono almeno italiano, questo. Attenzione, italiano del nord, abito nel nord Italia, questa macro regione del nord. Ma quale macro regione? Che si chiama anche Padania, perché effettivamente è un bacino che si chiama Padania. Perché esiste la Padania? È scritto su tutti i dizionari. Sì. Esiste anche il Dio Po? No, che cosa c'entra il Dio Po? No, cioè, ma non ho capito, la Padania dove esiste? La Padania esiste, la pianura padana, non la Padania. Ma allora come mai su ogni dizionario che degli anni 50 c'è la dicitura Padania? È un errore? La Padania, no? No, la Padania non come Padania, come nazione, a parte gli anni 50, erano gli anni 50. Cosa vuol dire? Appunto, ma non esiste, a parte che quali dizionari degli anni 50? Vabbè, facciamo che vi state impegolando, meglio cambiare argomento. Ma il dizionario di chi? Fatto da Calderoni? Oggi abbiamo avuto in diretta il figlio di uno dei picconati. Ah, che diceva? Ok, ha detto che suo figlio è stato ucciso seconda e poi anche magari una terza volta. Ma se a Cabobo che fine gli faresti fare? Questo dentro di te, che cosa vorresti farci con Cabobo? Diciamola tutta, su! Cabobo deve restare in carcere, è un esempio per tutti coloro che sbagliano in maniera così orrenda, così come anche se è matto. Coloro che hanno ammazzato. Va bene, il anche... Parlamento sta facendo uno svuota carceri vergognoso. Ma non devi fare il politico della Lega, sei un conduttore della radio di Radio Padania, non sei ancora in Parlamento. Ma faccio una trasmissione in cui le emozioni sono fortissime, ma voi lo sapete che da 10 giorni che ci arrivano migliaia di sms da tutta Italia di gente che non vuole l'abolizione del reato di clandestinità, ce l'ha tutta Europa intorno a noi e noi lo cancelliamo. A parte che non è vero che ce l'ha tutta Europa e non è stato abolito del tutto. Hanno delle leggi sull'immigrazione molto più cattive della nostra e noi che facciamo della nostra? Ma te l'hanno spiegato che non è stato abolito il reato di immigrazione clandestina? Scusa, lasciamo perdere questo, tu la Chienghe la chiami negra o no? La Chienghe è negra, perché è nera, ma non è un insulto. L'ho chiamata negra più volte, mi avete blobbato più volte, ma non è assolutamente un insulto. Beh, quando tu dici il nostro futuro viene deciso da una negra, vuol dire, lo dici in maniera, certamente non lo dici in maniera dispregiativa, positiva. Dispregiativa. Allora, qui bisogna allora capire chi parla, come parla, cioè opporsi all'immigrazione clandestina è reato. Chiedere case e lavoro per la nostra gente... è xenofobo. Che vuol dire domandare rispetto per la nostra cultura, oscurantismo, chiamarsi a favore della famiglia e omofobia. Cioè io è da una settimana che non mi cambio, mi metto ogni giorno una bellissima felpa con il simbolo della famiglia tradizionale, mi è arrivata dalla Francia e questa felpa non la puoi indossare significa che tu sei per la famiglia tradizionale. Ma capite dove stiamo andando? Ma tu ti metti la stessa felpa? Non ci fanno più parlare, siamo rimasti gli unici a fare opposizione. Radio di opposizione. Ma quando mai? Dai, non dire stupidaggini, Gesù, non dire stupidaggini. Ma vogliono far chiudere la Padania. Ma non vi devono dare più i soldi pubblici, certo. Se non vi devono, a tutti non devono dare solo i soldi pubblici. I soldi pubblici li danno anche agli altri partiti. Ma infatti non devono dare agli altri partiti e neanche a voi. Ogni giorno ore e ore di odio. Ore e ore di odio. Questo è. Ma questo i Rom, Marino. Tu che cosa faresti con i Rom? È un altro, ecco. I Rom. La sua ossessione. Ma i Rom, prima di tutto ce ne sono moltissimi che lavorano in maniera onesta e anche lo stesso Maroni. Ah, moltissimi lo dici, moltissimi. Ma se dici sempre che la maggior parte sono dei ladri, un attimo solo, giornale radio. peggiore. Giuseppe, Davide, vi voglio bene. Davide e Giuseppe, vi voglio bene. Vi voglio bene. Comoda, comoda, sull'erba molto spesso il signore. Notizie per incazzarsi in Sicilia. Mannaggia. In Sicilia. Oh, che scusa. C'è? Che c'è? Niente, è arrivato un rom, mi ha rubato il microfono. Porca miseria. Non Marin, è arrivato un rom qua. Non fa ridere nessuno questa roba qua. Mi hanno rubato il microfono un rom. Oh, basta pannella per quello. Notizie che fanno incazzare. In Sicilia c'è il Parlamento più costoso d'Europa. In Sicilia, il Parlamento più costoso d'Europa. Nonostante Crocetta. Solo, non so se nonostante o, nonostante, o con il contributo perché... di Crocetta. Non mi interessa, adesso non è questo il punto. Solo in caffetteria se ne vanno 800.000 euro. In caffetteria, cioè per il servizio caffetteria se ne vanno 800.000 euro. 800.000, 800.000. Poi c'è un'altra cosa che volevo dirti, la vergogna del Lazio, dei consiglieri regionali, sì. Non so se hai letto, cioè Monti aveva decretato che potevano prendere la pensione, detta anche sì. vitalizio, non prima dei 66 anni e almeno con 10 anni di mandato. Di mandato, certo. Questi paraculi hanno fatto un piccolissimo emendamento, e ancora si può prendere il vitalizio con 50 anni una sola legislatura, anche se questa legislatura dura 10 minuti, 20 minuti. Questo grazie al federalismo. Vabbè, adesso, ma che c'entra il federalismo? Grazie all'autonomia delle regioni che possono legiferare anche su mamma questo. Mamma mia, l'autonomia. Ma tu pensi che chi ci sta ascoltando capisce la parola autonomia delle regioni? No, ma devono sapere, chi ci ascolta, siccome non sono stupidi, cosa è molto semplice. Autonomia delle Monti regioni. Monti aveva proposto una cosa, in verità non ha alcun potere, perché le regioni in autonomia possono cambiare la leggina e fare quello che cazzo gli pare. È più semplice così? Sì, un po' più semplice. Ecco, appunto, spiegato. Oh, vogliamo sentire Borghezio all'infedele? Beh, amici miei, mi sono incazzato oggi, mi sono incazzato. Mi sono incazzato col signor Lerner, ma non sono incazzato con lui perché non me ne frega assolutamente nulla. Sono incazzato perché... per le cose gratuite, capito? Per le critiche gratuite, per le critiche di volgarità, di non so che cosa. Ma si può dire sodalizio che con Borghezio. Non ha detto questo, a me non me ne frega niente se dice che Borghezio è volgare. Quello, io so solo che noi, razziste, che sì. noi, che noi tiriamo fuori il Borghezio vero, e Lerner invece lo intervistava come un professore, cioè come uno con tutta la prosopopea, lo faceva parlare di cose molto serie, lo faceva parlare della Padania, del nord, tutte queste cose qua. Facciamo un esempio, marzo di 2 anni fa, 2011, 3 anni fa. Maroni, il ministro Frattini, eccetera, tutta la nostra vertici di governo parlano perché forse sono informati dai servizi e anche da quelli occidentali, eccetera. Non mi faccia commentare. Penso che non mi faccia commentare i servizi segreti italiani che cosa non hanno previsto. Io dico, siamo nella NATO, quindi probabilmente sì. hanno delle fonti. Non so se si sono rivolti solo alle suore, con tutto rispetto per le suore, ma credo che abbiano delle fonti molto attendibili. Quindi per poter Hillary parlare. Clinton, quindi, Obama, che parlano di primavera araba, di grande chance della democratica, sono degli ingenui. No, non sono degli ingenui. Noi perché sono non facciamo furbissimi, fanno della sono politica. Furbissimi e sono noi invece furbissimi. Ci dobbiamo perché che differenza Clinton, noi che cosa facciamo? Clinton marito parliamo anche lui della segretaria di Stato con cosa quasi Gheddafi, quindi voglio dire TG3 titoli. Ladies and gentlemen, e adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. Cooper lo contro Renzi, si dimette da presidente del PD dopo l'attacco in direzione, allarmato dalla tua concezione del partito. La replica del segretario, sono certo che ripartiremo insieme, ma le critiche si fanno e si ricevono. Se si rimette in discussione l'accordo, crolla tutto. A giorni in aula la proposta di Renzi sulla legge elettorale, nuovo centrodestra e 5 Stelle daranno battaglia sulle preferenze, vendola al TG3. Giovannini, un piano per le pensioni anticipate con un prestito d'onore. Per un italiano su 10 salario insufficiente, niente tagli alle detrazioni fiscali. Emendamento del governo, l'immigrazione clandestina è reato solo se recidiva. Giustizia, allarme della cancellieri, fermi 9 milioni di processi. Nel modenese chiusa la falla nell'argine del Secchia, ma comuni e campagne restano sott'acqua e molte zone manca la luce, 700 gli sfollati. Già 80.000 biglietti venduti per la ragazza con l'orecchino di perla di Vermeer che andrà in mostra a Bologna, c'è anche uno spettacolo musicato da Battiato. Non me moleste moschito, non me moleste moschito, non me moleste moschito. Mirko da Lucca, buonasera. Sì, buonasera. Io vorrei chiedere a Parenzo la definizione che uno può dare del suo popolo, perché ogni volta che esce fuori la parola ebreo lui attacca subito chiunque con la definizione di razzista. Dipende come uno lo dice, perché lo dice, io non in genere non qualifico le persone in base alla loro appartenenza religiosa, però voglio dire, non è che quando lei parla di che lei è un cattolico, non è che se lei dice, scusi, non è che se lei dice una sciocchezza io dico ecco cosa ha detto quel cattolico, dico ecco cosa ha detto il signor Bubù da non so da dove, ma come si chiama lei, posso, non ricordo, anche dire nel mio modo di fare in casa che un pigiano alla porta. La stessa cosa si può dire anche di un ebreo, perché anche gli ebrei, ma la non storia in si quanto appartenente alla religione, ma non però in avranno pur sbagliato qualcosa, ma non in quanto popolo. Quello che lei purtroppo negativa non capisce, ma glielo dirò con un'espressione cruda, sì, che forse è più consona, diciamo. Mi pare, non è che uno è qualificato in base alla... Lei se dice una stronzata, io non è che dico lei, il cattolico Mauro dice una stronzata, dico ma Mauro ha detto una stronzata. Francia, tante volte dicono in italiano in senso dispregiativo, allora non è che io dico te sei razzista, è una stupidaggine, infatti, e infatti è una stupidaggine, e infatti è una stupidaggine. Ma non può tutte le volte dire... te sei razzista, no, può essere che uno ce l'ha con gli io ebrei, quando te penso... essere razzista. Ah, beh, questo è interessante però, eh? Questo è curioso. Vabbè, lei che cosa dice? Che ogni volta che si toccano, si pronuncia la parola ebreo, si toccano gli ebrei, Parenzo si incazza, questo è il punto, Mirko, non ho capito. Ma anche parecchio si incazza. Cioè, vuol dire, dipende, io posso parlare detto, male, certo, degli ebrei anche senza essere razzista. E non è giusto che lui tutte le volte attacchi, guardi, chiunque e gli dia l'epiteto di qui di è venuto razzista. chiunque a parlare male degli ebrei, dello Stato di Israele, eccetera, per cui non è questo il punto. Martino da Milano, troppo. Martino. Certo. Non c'è, Mauro dall'Aquila. Buonasera, Cruciani. Dimmi. Allora, io in relazione al caso Cabobbo, sì, volevo riferirmi a tutti coloro i quali stanno chiamando questa sera. Lei ha accennato vagamente all'argomento che vorrei sostenere. Cioè, tutti pensano che gli stanno facendo un piacere a toglierlo da un carcere normale e ficcarlo dentro un OPG. Senza sapere di preciso, ovviamente, che cosa sia un OPG, cioè nessuno ha mai sentito parlare. Cioè, secondo lei è peggio del carcere? Non ho capito. Ma molto peggio, è l'inferno in terra. In un psichiatrico sono stati chiusi, si però sa quando si entra, ma non si sa quando si esce. Lei ha ragione, ma sono di stati chiusi. Non si esce mai. Ci sono persone che per casi banalissimi sono dentro da anni e anni. È vero. Ma quindi, ho capito, o va curato, se una persona, però io dico una cosa, no? Però gli OPG sono in fase di chiusura, eh. Vabbè, ma lasciamo perdere adesso questa roba. Una roba sì, no, ma lascia perdere OPG, chiusura, vabbè, non chiusura. Questo qua è stato, hanno detto, non è ancora stato deciso, che il signor Cabobbo deve uscire ma dal carcere. Ma lui ti ha detto un'altra cosa, cioè ti sta spiegando che l'ospedale psichiatrico giudiziario dipende dal Ministero della Giustizia, non dal Ministero della Sanità. È una struttura semicarceraria, vi sta dicendo questo signore, sì, giustamente. Che è peggio del carcere. Che è peggio del carcere, ha ragione, perché io ci sono stato a Barcellona, Bozzo di Gotto, eccetera. Quello che invece è il fuoco della polemica di oggi è che questo signore non dovrebbe, questo Cabobbo non dovrebbe andare, non finirebbe in una di queste strutture, ma in una struttura clinica, semplicemente medica, cioè ospedale psichiatrico. Da dove scapperà il prima possibile? Questo da è il dove punto. Se ne andrà il prima possibile? Se no non si spiega perché la gente, perché, senti, per me capito? Questo Cabobbo lo sai che doveva fare, essendo clandestino, ecco, autore di diversi reati, sentiamo, eccetera, eccetera. Dovrebbe essere preso e riconsegnato al suo paese d'origine. Hanno ragione, cioè, da dietro la regia. Preso in galera. Era messo in galera nel suo paese d'origine, o comunque è clandestino, ha commesso un reato, ha ammazzato tre persone con l'accetta, ma perché deve restare da noi? Spiegami, perché deve restare qui in Italia? Spiegami, no, tu dammi un motivo. Guarda, ha ragione Sara, che da dietro il vetro sta alzando un cartello dicendo basta dire cazzate, ha ragione. No, basta dire cazzate, che vuol dire? Che vuol dire basta dire cazzate? No, tutte e due. Ci dica lei una soluzione per la soluzione. Sta lavorando, la signora Minolisger, una delle Minolisger, sì. pure, sta lavorando, non è che ha tempo da perdere adesso a dialogare. Se vuoi la chiamo qui dentro, no, se vuoi. No, ma basta, non cazzate, che vuol dire? Cioè, la mia no, cosa forse è questa. Era riferito questo qua è clandestino? È clandestino? Ha commesso reati gravissimi prima e dopo. Condannato. Venga cacciato dall'Italia, punto. Cacciato all'istante dall'Italia. Ecco. Preso e portato. Non può stare in Italia perché sta male. Benissimo. Qual è il suo paese d'origine? Ci saranno le strutture del suo paese d'origine? No. Venga preso e portato via. Non capisco perché dobbiamo noi sobbarcarci da un assassino pluriomicida con l'accetta tre persone. Ci dobbiamo sobbarcare la cura di questa persona. Perché ce la dobbiamo sobbarcare noi? Sì, la cura psichiatrica di questa persona. Perché deve essere in carico a noi? Vuoi tirare soldi per Cabobo? Vuoi pagare per Cabobo? Sei contento di pagare per Cabobo? La cura di Cabobo la paghi tu? Sei contento di pagarla? Ma come quella di tanti altri, ma come quella di tanti altri. Non è che una persona è una persona per me, non è che distingo. Borsa. Prego, si accomodi. Lei è il signor? Turri. Favorisca le analisi, per cortesia. Perché ha deciso di perdere 7 kg in 7 giorni? Beh, sai, io sono in politica, sono assessore comunale all'alimentazione, al comune di Viterbo. All'alimentazione, capisce? Sì, quelle sono le caricature che mi fanno. Sono perseguitato, dottore, non ce la faccio più. Poi sa, adesso ci sono le elezioni politiche e io vorrei avere un look più dinamico, mi spiego. Berlusconi dovrebbe andare in una struttura, in una bellissima struttura come al solito, alla Maison di Villa Paradiso, Lago di Garda, per perdere qualche chilo, perché insomma non si vede troppo bene. Prima di partire voglio risolvere la questione degli incarichi, ha detto, poi la questione è stata rimandata. Ha preso un po' di chili, eh? Ma tanto non sarà candidato. Ho perso la forma in questi mesi. Vabbè, che vuol dire? Non è che uno non può fare i comizi, magari, non può parlare in televisione. Beh, i comizi non so se può uscire di casa. Non caso, posso presentarmi in televisione così, ha detto. Ah. Sì, perché la televisione poi ingrassa, Questo è vero. Per cui vuole andare in questa Maison du Relax. Insieme a Giovanni Toti. Così sembra, Così sembra. Non è la prima volta che Berlusconi fa diete, diciamo la verità. Non è la prima volta, è abbastanza abituato a fare diete. Molto abituato a fare diete. La Maison du Relax, buonasera, sono Elisa. Sì, buonasera Francesco. Volevo sapere se era possibile prenotare un 5-6 giorni lì da voi, perché ho un problemino di peso, diciamo. Sì? 90 kg, 100. Per che periodo? Guardi, per la settimana prossima, da domenica fino a venerdì. Allora, al anche momento perché, io ho disponibilità da giovedì prossimo, non prima. Dovrei metterla in lista d'attesa. C'è anche la settimana solitamente da lunedì a lunedì. Perché il posto è bellissimo e avete personaggi di alto lignaggio. So. Di alto? Di alto lignaggio, cioè importanti. Abbiamo una buona clientela. No, ma proprio importanti, lo so, perché insomma. Anche lei sarebbe un ospite importante. No, ma io sono tutti povero. I nostri ospiti sono importanti. Povero Cristo. Comunque non ho posto prima di giovedì prossimo. Ma c'è anche, mi hanno detto che ci dovrebbe essere anche Berlusconi. Per privacy non si dicono gli ospiti che abbiamo in casa. Però io, guardi, veramente ci terrei tanto, perché il posto è meraviglioso, ma ci terrei tantissimo proprio a stare. Può stare al telefono anche mezz'ora, ma avere una camera magari lì vicino. Non si dicono mai. Ma e posso portare un cane io? Perché so che Dudu forse viene, io ho il mio. Posso non sono ammessi animali. A Fofu non può venire, quindi? Nessun animale è ammesso. Ma non è che poi trovo Dudu però lì? La Maison du Relax non sono ammessi animali e bambini fino ai 12 anni. Anche questi bambini? Sono i vincoli. Animali e bambini anche? Fino ai 12 anni. Ah, quindi un bambino di 12 anni è come un bambino. Sì, ho capito. Quindi Fufu non può venire. Non è che però poi trovo nel parco della villa Dudu. Assolutamente, i cani non sono ammessi. Io però sarei disposto a pagare il doppio lì se mi mettesse una camera vicino a quella importante. Le sto dicendo che fino a giovedì prossimo non ho disponibilità. Vabbè. E niente animali? E niente animali. Se trovo Dudu però. Vabbè, adesso devo rivedere un attimo con il mio compagno, perché sono con il mio compagno io, siamo due. Sono omosessuale, non ci sono problemi, vero? Nessun problema. Ah, ok. Se omosessuali va bene, però gli animali invece niente. Vabbè, ok. Grazie. Grazie a lei. Arrivederci. Yeah. abbiamo scoperto una cosa innanzitutto, caro Davide. No, abbiamo scoperto che il Dudu non potrà andare alla Maison du Relax. Però questa posso dirti che è una notizia che abbiamo tirato fuori. Beh, adesso non esagerare, dai. Beh, no. Dudu no, che non può andare alla Maison du Relax. Io adesso voglio chiamare mio amico il direttore dell'ANSA e vorrei fare subito un lancio a tre croci, nel linguaggio di... No, sai quelle rosse che appaiono nelle agenzie? Tu. Voglio l'apertura del Corriere.it. Dudu non può andare alla Maison. No, Davide non cercava di fare lo stupido, è uno stupido. È arrivato là. Però era molto professionale, signore. Non si possono dare i nomi degli ospiti. I cani non possono entrare, nemmeno i bambini sotto i 12 anni. E questo mi incuriosisce. Secondo me, però, Berlusconi, se ci va, Dudu lo porta. Io ti assicuro. Secondo me lo porta. Io adesso vado, ma se trovo Dudu e il mio e Fufu, come si chiama il cane di Mughini? Come si chiama il cane non di mi Mughini? Ricordo, dai, non insultare il cane di Mughini, no, poi succede un casino. Come si chiamava il cane? Non lo so, non mi ricordo, dai. Alessandro dalla provincia di Siena, comunque è incredibile questa cosa qua, eh. Cioè, secondo me alla fine Berlusconi riesce a portarlo comunque, eh. Ai cani non è permesso di andare. Comunque Berlusconi dovrà rinunciare a Dudu per tre giorni. Alessandro da Siena, provincia di Siena. Buonasera. Dai. Buonasera. Volevo parlare con Parenzo, ma è una cosa molto semplice. Molto semplice. Eccomi, caro. Allora, Parenzo, io volevo sapere se lei è mai stato all'estero per lavoro per lunghi periodi. Per lunghi periodi no, per lavoro sì. Vabbè, allora? Ecco, allora perché non facciamo lavori diversi? Allora, io le posso dire, posso garantire che lavorare all'estero per noi italiani non è come sembra. Ci fanno diventare razzisti quando torniamo in Italia, perché noi vediamo là quello che le nostre leggi non fanno qua. Dunque, per esempio? Dunque, 9 mesi in Romania l'anno scorso, ok? Nessuno mi ha lavato il vetro al semaforo, nessuno mi ha chiesto un'elemosina davanti a un locale. Però scusi, perché il problema dell'Italia, detto con tutto rispetto, non saranno mica i lavavetri. Non saranno mica i lavavetri. No, non mi interrompa, è un'estremizzazione. Ho lavorato in Africa, dove alle 4 del pomeriggio si ferma tutto l'impianto perché c'è da pregare. Allora io dico una cosa, se noi là rispettiamo le loro leggi, rispettiamo il loro modo di essere, perché loro qua non devono rispettarlo? Ma se non rispettano le leggi, ma scusi, ma che fastidio le... a parte che c'è Andro Mercurio dietro al vetro e non so perché, ma che fastidio a Roma, ma che fastidio le dà, torna a Milano, ma che fastidio le dà, scusi, un lavavetri? A me fa anche simpatia, che fastidio dà il lavavetri? No, beh, il lavavetri a me mi sta, anche a me sta sul cazzo il lavavetri, anche a me il lavavetri un po' mi sta sul cazzo. Bravo, va bene, ogni tanto mi sta sulle palle il lavavetri, ogni tanto mi sta sulle palle, perché un poveraccio, perché scusatemi, branco di razzisti, perché allora un signore non ha lavoro, non trova lavoro, è venuto qui con le pezze al sedere e vi dà anche fastidio a voi ricchi che un signore vi chieda, forse un po' insistendo, di pulirvi il vetro. Vi dà anche fastidio. No, a me dà fastidio quando uno gli dice no, uno insiste. Lo devi sopportare, amico mio, lo devi sopportare. Ma perché lo devo sopportare? Sei ricco, scusa, devi sopportare quello che ti pulisce il vetro. Lo Alessandro, devi lei lo sopporta, lei lo sopporta quello ma che pulisce. Io lo posso anche sopportare, ma era per portare a Parenzo questo esempio. Su, non siamo sempre intolleranti, su. No, anche no, a me ogni tanto rompe le balle. Però gli dici no una volta, quello torna, gli dici no due volte. Ma non fare altro, che fa di grande? Che fa? Parenzo, se che mi fa? Interrompe, non concludo. Cioè, il signor Cabobo, se aveva fatto quello che ha fatto in Italia, nel suo paese, l'avevano fucilato dopo 5 questo minuti. Questo è vero, questo è vero. Allora è questo è vero. E quindi è civile, ma cosa sì, vuol dire? Tra la fucilazione e il fatto che uno va in una clinica a curarsi, ce ne passa, Ma una clinica, ce ne passa. Se dici una clinica, dici una stupidaggine che sembra la Villa Paradiso. Esatto. Ma che cosa dici? Ma se dite villa... Vabbè, ho capito. Oh, intanto, amici miei, sbattono la porta, fanno casino, si dimettono da presidenti del partito, però non è che votano contro Renzi, Non hanno la minima intenzione di togliere il disturbo, come leggo su Dagospia, ed è vero, cari amici, non hanno la minima intenzione di togliere il disturbo. Cosa dovrebbero fare? Non capisco. Si sono anche astenuti là sulla questione di Renzi. Sì, ma non c'è questa famosa minoranza interna. Non esiste. Ma cosa, non ho capito, lo dici, cosa dovrebbero fare? Un altro partito? Sì, ma non c'è opposizione. Quello si è dimesso da presidente per avere le mani libere e dire quello che gli pare. Ma perché non anziché avere. Prima. No, perché ha spiegato che fare un argomento noiosissimo. Ma non lo capisce lo so. Nessuno. E invece lo capisce la gente. Non lo capisce nessuno. Non è che la gente capisce soltanto. Ma non lo capisce nessuno. Il presidente. Vabbè. Già è assurdo che esista la carica di presidente. È di la carica di presidente. Ma non vuol dire lui nulla. Dice, la gente non capisce. Che dovrebbe... È incomprensibile. No. Uno c'è il capo del partito, poi ci sono quegli altri. Ma il presidente, ma che vuol dire il presidente? Vabbè, ma siccome non è il tuo partito, mi spieghi loro che si sono dati dire. Questa regola. Tu non sei presidente? Dentro il PD. Ma significa dare uno strapuntino, un posto, una visibilità, ma non vuol dire nulla. Ma piace così, qual è il tuo problema? Ma no, ma per dire, cioè per dire, uno deve essere chiaro su queste cose qua. Sono cose che non contano niente. Uno è presidente. Ma dici tu, per loro sì, è una funzione. È una funzione, conta il presidente del partito, conta negli equilibri, queste cose qui, che per gli italiani sono cose incomprensibili. Hanno le loro regole, le loro riti, i loro riti. Alberto da Milano. Sì, buonasera. Senta, l'altra sera ho sentito un intervento di non mi ricordo chi, forse Toscani, che parlava di noi elettori della Lega come subumani. E sotto Toscani, sono queste... Toscani, sì, dice subumani, okay. Diarrea, eccetera. Il fotografo, sì. Quello delle... Fotografo, ha fatto tante cose. Ok, io cioè, non capisco perché. Io sono un elettore della Lega dall'87 e mi sento sempre maltrattare da Parenzo, non ne parliamo nemmeno perché con le sue risatine compiacenti davanti a queste frasi ridicole. Io tra l'altro, pronto all'orrore, voto anche Berlusconi spesso. Ma io guardi, okay. Non... Quindi è pronto all'orrore Parenzo, perché io commento guardi, non riesco a capire perché continuate ad affiancare alla Lega le macchiette, le stronzate. Quando che io sento cose razziste lo denuncio. Ma perché dovete farci passare a noi elettori Lega, ma non è, dipende cosa dice uno. Come il ventennio perso. Ma dipende cosa, dice. Mica per sempre. Non è che per me la Lega è razzista per sempre. Che si è fatto molto poco in questi ultimi vent'anni. Anche con la Lega al governo, caro Alberto, questo mi sembra evidente. Questo mi sembra chiaro. Allora, io posso capire che si può sempre far di meglio, ma vi ricordate l'Italia alla fine degli anni, all'inizio degli anni 90? Cioè l'alternativa a Berlusconi era Occhetto. Vabbè, ma questo che c'entra? Dai, ho capito, non c'è la controprova che non poteva andare anche peggio. È chiaro che si poteva fare di più, però ma da qui a continuare a condannare, io sono un piccolo imprenditore, conosco bene anche il centro-sud. Allora? Cioè questo, ma stiamo parlando, ma io voto Lega perché ho le mie convinzioni e sono stufo, veramente. Benissimo. E continuate a maltrattare... Ma noi... chi maltratta? Ma che lo posso dire? Ma continuate a far sentire le macchiette. Ma sai che io maltratto, ma lei non ha capito niente. Le solite quattro stronzate che ogni tanto dicono riprendete solo quelle. Ma dai, ma ci sarà anche una fine. Ciao caro, ciao, un attimo, fermi. Amo volare e so quanto contano controllo e fiducia durante una turbolenza. Per questo mi fido di Barclays, che sa aiutarmi a tenere la giusta rotta in caso di imprevisti per realizzare le mie ambizioni. E da oggi mi rimborsa l'imposta di bollo sul deposito titoli fino alla fine del 2015 per un massimo di 3.000 euro. Scopri i dettagli in filiale o sul mio traguardo.it. Barclays, realizza le tue ambizioni. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida fino al 34/2014, soggetta a limitazioni. Condizioni, fogli e documenti informativi su ilmiotraguardo.it. La zanzara. La zanzara, la zanzara stronza. Ma c'hai dei problemi, Cruciani? A Crociata c'hai dei problemi seri. Il problema sei tu, non sono io. Il problema sei tu. Addirittura. Siamo qui la zanzara ed è con noi Michela Biancofiore, Forza Italia, ben ritrovata, buonasera. Ben trovati voi, buonasera, come state ragazzi? Come andiamo? Bene, lei? Avanti. Bene, dai. Si va avanti, su. Va Senta, avanti. Io voglio dire una fino cosa. Fino a quando non vai ai domiciliari si va avanti. Ma che c'entra mica vai ai domiciliari andrà lei? Andrà avanti anche oltre perché certo, il consenso non si assottiglia. Appunto, non è che uno... Anzi, probabilmente succede una cosa. Quando ci saranno i servizi sociali o quello che sarà, i consensi aumenteranno, secondo me, di Berlusconi. Giusto, signora Biancofiore? Ritengo di sì, è una tale ingiustizia quello che gli è accaduto che sotto gli occhi di tutti indirettamente lo ha riconosciuto anche il segretario del PD. Cioè come l'ha riconosciuto? Non mi pare che abbia riconosciuto. Direttamente sì, perché ovviamente lui gli ha riconosciuto il consenso da un punto di vista elettorale e la rappresentanza del centrodestra. Sì. Insomma, non credo che avrebbe fatto un passo come quello che ha fatto se non sapesse anche suo malgrado che uno come Cobobo, che per chi non lo sapesse è quel ragazzo di colore che ha preso le persone per strada a Milano, è fuori, mentre invece la giustizia italiana vorrebbe incarcerare. Però scusi, se abbia Biancofiore, adesso Cabobo non è che è fuori, è matto, dicono che sia matto. No, sì, è matto. esatto, sì sì, sono tutti matti, anche quello che ha tirato la statuetta in faccia a Berlusconi è fuori ed è matto anche quello, sono tutti, tutti matti. Beh, matti, ho capito, anche, il, anche il primario di Milano, della clinica Santa Rita di Milano, che ha portato per motivi economici brega, di cuore, sì, eccetera, sì. Anche lì un cavillo burocratico, mentre invece per il 4 volte presidente del consiglio, 3 volte presidente del ma sono altre cose. Lo si mette o si cerca di metterlo dentro, lo si condanna per un eventuale. Cioè, lei vuol dire no, eventuale, c'è la condanna, però lei vuole dire che ma agli altri condanna, bisogna vedere se la condanna è politica o sì, però vuol dire, se lei dice che mentre Cabobo è fuori, a parte che non è fuori perché forse va deve essere comunque a farsi sì, a fare accertamenti che recentemente ha ammazzato il suo compagno di stanza perché appunto l'avevano messo, l'avevano sanato di mente, messo in una specie di famiglia, di casa famiglia, che poi ha ammazzato. Cioè Berlusconi dice i giudici sono più indulgenti con gli assassini che con Berlusconi. Beh, questo è sotto gli occhi di tutti, d'altronde quale essere umano, quale essere umano in Italia ha ricevuto 3 gradi di giudizio in un anno? Ma la giustizia è celerissima solo quando si chiama appunto Silvio Berlusconi, che ricorda tutti, guardate la differenza con la Francia, che è stato il 4 volte presidente del Consiglio e 3 volte presidente del G8, almeno un briciolo di attenzione. Ma non è che sei stato patriottica, intendo dire, un po' più di tutte le cose con cautela. Però scusi, sappiamo che il reato per il quale è condannato è un'ipotesi di reato. È un'ipotesi, madame. No, ipotesi no. Madame, ma scusi, madame. Si ipotizza che lui non poteva non sapere. Non si è più ipotizzato, lo hanno, Madame Whiteflower, l'hanno condannato, non è più un'ipotesi, ancora, l'hanno condannato per quel reato. Però adesso non restiamo su questa cosa. Andiamo avanti, andiamo avanti. Senza prove e senza ammettere 160 testi. Se senta, io voglio capire una cosa. 3 gradi di giudizio svolti in un anno. Benissimo, sarà il popolo italiano poi a giudicare, ma mi pare che insomma o il popolo italiano, cioè Renzi, secondo lei, questi magistrati sono tutta una massa dei delinquenti, oppure evidentemente se lo assolvono e lo seguono ancora politicamente si sentono rappresentati da una persona che per loro non è né colpevole giuridicamente, soprattutto una persona che sono più importanti i voti delle sentenze, dice lei. No, assolutamente, questo non lo direi mai. Se la sentenza, io guardi, sono una che è sempre stata dalla parte della magistratura, anche molto poco garantista. Le posso assicurare che sono cresciuta in una procura della Repubblica. Insomma, che la causa di Berlusconi sia stata una causa politica, insomma. Però credo, scusi, che lei, Renzi, soltanto a voi possa sfuggire. Ma Renzi ha riconosciuto che le condanne sono ingiuste di Berlusconi, no, dice lei. Assolutamente, indirettamente, indirettamente lui sa che Berlusconi è un innocente, ma sono tutti quelli che sono onesti intellettualmente, insomma, dire, è talmente lampante la celerità, cioè, Renzi lo sa, Renzi con la lo quale sa. Cioè uno dei magistrati che in corte d'appello ha condannato Berlusconi per il processo dei diritti media, che si occupava anche dello scioglimento dei bambini dentro agli acido per conto della madre, ma che c'entra? Da quelli, e quello non l'ha portato avanti di processo, ha portato avanti celermente quello di Berlusconi. Vabbè, adesso questo, lei dice non ha portato avanti i processi. Dai, ragazzi, è tanto voglio dire, voi la verità non la ammetterete mai. No, ma io figuriamoci, se non ammetto una persecuzione. Ma ha votato anche Forza Italia, che gli frega, è una persecuzione giudiziaria fatta da una sola parte della magistratura. Vabbè. Però scusi, basterebbe dichiararsi matto allora, perché Berlusconi non si dichiarerà no matto, ma per ridere no, ha dovuto lasciare il paese, non lo fa perché ha un senso patriottico enorme, chiunque al suo posto probabilmente potendosi permettere ben più che vivere all'estero avrebbe lasciato il paese. Però per scherzo lotta ancora nella pervicace convinzione che deve dare il contributo a questo paese affinché cambi. Scusi, però onorevole Biancofiore, credo che abbia ancora un futuro molto politicamente ancora molto roso. Beh, Renzi sicuramente l'ha aiutato in questo, Prego? Renzi l'ha aiutato da questo punto di vista. Sono convinta che l'abbia aiutato in questi. Renzi ha riconosciuto quello, lo ha detto lui stesso. Ma le è piaciuto molto Renzi? Molto mi dica intellettualmente. Ah, ha detto una sacra santa verità, non sono io che legittimo. Però le è piaciuto, però le è piaciuto. 10 milioni di voti, ma a Renzi piace da tempo, perché comunque non sono nuova. A parte che come generazione ovviamente ce la intendiamo, io ho qualche anno di più, appena, ma poi il suo metodo, quello di dire le cose in faccia, è sempre stato il mio metodo politico. Lei come una donna e che quindi ovviamente mi vogliono gambizzare molto più velocemente di quanto possano fare con lui. Però scusi un attimo, cioè Renzi in questa vicenda qui di Berlusconi eccetera, Renzi si è dimostrato uno con le palle, si può dire? Non solo questo. tutto, non solo si è dimostrato uno con le palle, ma si è dimostrato uno, se vogliamo dire così, sì, anche se in bocca ad una signorina non sa. No, per carità, ma vabbè, il vabbè, problema l'avete detto voi. Beh, in parte sì. Il punto è che si è dimostrato soprattutto onesto intellettualmente, uno che ha una lettura pragmatica della realtà delle cose, senza essere né partigiano né fazioso né. Per cui mettiamo che senza essere, sì, come dire, alimentato dal berlusconismo militante, sì, che invece caratterizza, come ovvio, una parte del suo partito. Ecco, ma che effetto le ha fatto a lei? Che... Me lo lasciate dire questa sacrosanta verità? Ma l'ha detta. Sacrosanta verità. Semplicemente questo, lo ha ripetuto ieri, l'ho detto pure io in un'agenzia, avremo evidentemente, come dire, affinità elettive, ha detto. Ah, lei si sente di avere affinità elettive? Non sono io a legittimarlo, sono i 10 milioni di elettori che lo hanno votato. Che non sono 10, comunque. I sondaggi ancora dimostrano che lo vorrebbero votare. Però scusi un attimo, dunque lei pensa di avere, per esempio, delle affinità elettive con Renzi? Cioè, se non ci fosse Berlusconi in campo, diciamo la verità, lei Alfano non lo voterebbe mai, diciamola tutta. Assolutamente mai. Ma non perché io ad Alfano, io sono molto dispiaciuta per il comportamento di Alfano. Cioè tra Renzi e Alfano, lei chi voterebbe tra Renzi e Alfano? No, io Alfano, lasciatemi dire, io Alfano il primo luglio del 2011, quando Berlusconi gli alzò il polso e tutti lo votammo, io veramente sarei andata compostata sul brecciolino per lui, perché ci credevo veramente. Purtroppo invece che fare la rivoluzione si è alleato con quelli che volevano la restaurazione. Alfano non è uno che decide mai, è uno che galleggia, fa decidere agli altri. Ma lei tra Renzi e Alfano chi sceglierebbe? Mi alla fine. Ma non avrei dubbi a Renzi, anche perché tutto sommato la politica che fa è molto, come tutti dicono, è molto simile alla nostra, ma che poi che qual è la sua politica? Quella del bene del paese, che appunto c'è una all'affinità, come abbiamo detto, come ha detto anche lui col nostro leader, perché lui pensa pragmaticamente all'interesse, cioè, del paese. Cioè, se Berlusconi non si presenta, se Berlusconi non si presenta alle elezioni, lei potrebbe votare Renzi? No, se Berlusconi non si presenta alle elezioni, io spero di votare qualcun altro della famiglia. Però se ci fosse Alfano, lei proprio tutta la vita non avrebbe dubbi. Vabbè. No, credo che cambierei mestiere, cosa che potrei fare lo stesso. Senta, ma Berlusconi dopo... Finché uno ha la passione, non solo per occupare un posto. Dopo la morte di Abbado, Berlusconi merita, non per la morte di Abbado, per carità, merita di essere nominato senatore a vita, secondo lei? Perché si libera un posto. Se lo meriterebbe, ma non credo che lo meriti, perché sa bene che se il Presidente della Repubblica lo avesse voluto fare, e lo avrebbe dovuto fare, considerando i meriti reali, storici, costruttivi di Berlusconi nei confronti di questo paese, lo avrebbe già fatto. Ma perché no? Ma perché fino non hanno... Fino a quando esiste, persiste e sopravvive questo Presidente della Repubblica, non credo che lui possa immaginare una cosa del genere. Però dopo Abbado dovrebbe... A me piacerebbe che lo facesse di sua spontanea volontà il Presidente della Repubblica, ma questo è un sogno onirico. Che è un sogno come... Senta un attimo, ma lei la vorrebbe una statua al Senato di Berlusconi, diciamo, l'estate di... No. Perché no? No, una bella statua. Sorridere, non c'è bisogno della statua di Berlusconi. Berlusconi ha già segnato la storia di questo. Appunto, paese. Una bella statua al Senato. Un busto, allora, un busto. No, non avrebbe senso, non credo che la vorrebbe nemmeno lui. Non c'è bisogno. Una targa. Berlusconi è vive, perché lei vede la statua, una cosa consegnata al passato. Ah, per Berlusconi i morti. Invece dice. Guarda ancora al futuro, è ancora benissimo. Va bene, dopo la pubblicità. E nella penna di tante persone che ancora lo vogliono. Dopo votare. La pubblicità parliamo un po' di Dudu, uno dei miei argomenti preferiti, perché so tra l'altro che Berlusconi vorrebbe cambiare casa. Allora. Vediamo se la Biancofiore ne sa qualcosa, eh? Pubblicità. Beh, onorevole Biancofiore, mi sembra molto, abbastanza, non dico sorprendente, però no, una bella confessione questa roba qui, no? Che dice? Perché sorprendente? No, sorprendente. Ognuno ditemi di noi. Ditemi perché sorprendente. No, lo sa perché? Perché per una questione di pregiudizio, perché l'immagine pubblica dell'onorevole Santanchè è quella della donna, no? Ma di personalità aggressiva, eccetera, eccetera. È una persona anche navigata. Il fatto che sia una persona aggressiva non significa che aggressiva... usare il linguaggio la dà in giro, insomma. Positivamente, ecco, no, assolutamente. Determinata, non aggressiva. Sì, ma in questo senso volevo dire, però io dico, lei userebbe le stesse parole oppure no? Oppure è esagerato dirle? Io le pratico le stesse parole, che è diverso. Cioè, non ho capito, lei non fa sesso? Non ho capito. No, nel senso che pratico esattamente quello che dice la mia collega Santanchè, nel senso che mi concedo molto poco, però le devo dire che invece... Come consiglio lo darei anch'io. Oggi come oggi, se avessi una figlia, devo dire che vedo più riuscite quelle che la danno in giro molto spesso, devo dire. Francamente le vedo molto più felici, perché vedete, sono le cacciatore. Quelle che la danno in giro, ahimè, sono considerate dagli uomini delle prede inafferrabili. Sì. E quindi e quindi che si concedono, come dire, molto poco a quel soggetto, e quindi in realtà sono più attratti da donne poco serie che dalle donne serie. Questa è drammaticamente la verità. Cioè, nel senso che le persone che la danno poco in giro, dice lei, alla fine vengono scartate da un certo punto sì, di vista. Sì, perché c'è talmente tanto non scartate, cioè comunque vengono considerate come avete detto voi, no? Cioè che se la tirano, che comunque insomma sono sulle loro. Invece io condivido pienamente quello che ha detto Daniela. Però se devo guardare sì. al mondo come funziona, vedo che più le donne sono, come dire, disponibili, facili a infilarsi nei letti sì. giusti, e quindi tanti, molteplici, più purtroppo, e questo è un insegnamento negativissimo per questo sposo, e al condivido e pratico, ripeto, sì. quello però che dice, potesse tornare drammaticamente, indietro. Drammaticamente gli esempi di riuscita nel mondo, anche affettiva, sono, ahimè, altri. Ma anche in politica è così? Questo non lo so, perché domanda. Non entro mai nella vita privata dei miei colleghi, lascio vivere a loro. Però è vero o no che in politica... privata, e per mia fortuna non sono né bigotta né giudico. A me piace vivere e guardarmi allo specchio per quello che sono, dopodiché comunque non posso che constatare che più sei facile, più ottieni. Anche in politica? Ribadisco, non vado a guardare nei letti. No, ma no, ma scusi, letti in generale, se è discorso in generale, c'è più facile, chi fa, se uno c'è nella società, purtroppo questo è lo specchio anche della politica, società. Anche in politica, famiglia, a casa mia mi hanno insegnato dei valori e io ho sempre rispettato. No, ma infatti non parliamo anche in politica, sì. anche da tutta e nella mia vita quotidiana. Quindi non è la questione della politica, uno è in politica sì. credo, come quelli che sono i valori che uno si è trasportato dalla propria famiglia, dal proprio vissuto e via discorrendo. Sì. La politica non è altro che uno specchio, una fetta, uno spicchio della società. La appunto, società, dico, purtroppo lei, è quella che è. Lei per come conosce... vengono considerate fighe le donne, scusate il termine, sì. le donne che hanno molteplici uomini ormai, come invece sono considerati strafighi, non puttanieri ma strafighi, nella società odierna gli uomini che hanno molteplici donne. E si pensa. La fedeltà, la lealtà, la costruzione di un rapporto, la semina, perché l'amore non deve essere semina, un seme sì. che tu punti, che tu pianti in un vaso e che fai sì. crescere giorno dopo giorno con l'amore, con la cura, con l'attenzione, con l'acqua che ne ha. Ma lei si pente e la dia un po' in giro, non è vuole biancofiore, la dia un po' in giro, la dia un po' in giro. Non mi pento perché ognuno deve essere com'è, come si sente di essere. È una bellissima donna, è una bellissima donna. Io sono, sì, lo so, ma io sono una innamorata, sì, lo so, no, sembra presuntuoso, no, voglio dire, lo so che forse dovrei essere più, come dire, sia generosa, più facile. Ma in realtà io sono una innamorata dell'amore, grande errore. No, se non ama, se non ama, l'amore lei non sublime. Se lei non ama, non fa sesso. Se lei non ama, non mi dica che se non ama non fa sesso, perché non ci credo. Invece è proprio così. È proprio così, beh, proprio così. Bello, dai. E se proprio mi è capitato, è stato un disastro, perché quando sei innamorato non hai una spinta interiore in tutti insomma, i sensi. Ma insomma. Ma Hollande si è comportato peggio di Berlusconi, secondo lei? Beh, insomma, decisamente gliela fatta sotto gli occhi. Insomma, dentro mentre c'aveva in casa, nell'Eliseo, insomma, poi... Beh, non è che però la signora Veronica Lario sia stata lì, Ma la signora Lario, ha dovuto sopportare tutto. Ha parlato di draghi, di ragazze date nelle mani ma del non, drago. Ma non gli è successo, diciamo, proprio sotto gli occhi, eventualmente. Erano sposati. Amore, erano sposati. La signora Lario, io non lo commento, io non ero... Lei dice che Hollande gliel'ha fatta sotto gli occhi, cioè si è fatto proprio scoprire col motorino, dice così, in maniera vergognosa. Soprattutto la cosa brutta di Hollande è che, a differenza di Berlusconi, è che è cinico. C'è da dire che la Francia è un grande paese, invece che ficcarsi dentro le lenzuola del Presidente della Repubblica, invece che sputtanarlo, scusate il termine, su tutti i giornali nazionali di cronaca politica e economica, insomma, i giornali seri, l'hanno tenuto comunque riservato perché hanno un senso patriottico. E perché, francamente, ma guardi come che è lo stesso Hollande, editore di chi ha ragione, la propria vita privata è la propria vita guardi, privata. Signora, un ultimo... che è lo stesso editore di chi ma che ha pubblicato. Che gliene frega a lei che è lo stesso editore di chi? Ma come gliene frega? Io ho sentito Mondadori. Anche una televisione che diceva oddio un complotto di Berlusconi nei confronti di Hollande, semmai poteva essere una vendetta nei confronti di Hollande. Non ho detto questo. Qua, ma non certo di Hollande. Ma figuriamo che gli frega. È stato un giornale francese. Nessuno sospettava che Hollande, detto il budino, potesse avere una vita così, come dire. Beh, a parte che è più giovane di Berlusconi. A parte che comunque, è più giovane di Berlusconi. Comunque ha fatto benissimo, perché quella è una bellissima attrice, una bellissima ragazza. Ma come ha detto la Litizzetto ieri, sì, una bellissima ragazza. Ma lui è orrendo, lui è terribile. Anche lui la Trivalier, ma lui, gli uomini poi alla fine devono far ridere. Ma come donne. Fa a piacerle? Come fa a piacere uno come Hollande? Lei piacerebbe uno come Hollande? È una cosa terribile, Hollande è agghiacciante. No, così ictu cuocoli, come direbbero, esatto, i turisti, no, ma penso che ci sono degli uomini che non sono assolutamente belle, ma è capitato giustamente, che hanno... È il potere, fatto... dai, il potere, su, il potere. No, nel caso, credo, nel caso di Hollande, sì, ma credo che quando le donne, sì, che lui ha avuto, Ségolène Royal, che è stata praticamente la sua moglie, perché ha fatto 4 figli con lui, anche se lui non si è mai sposato, quando lui dice che lui è molto... Ma dove si trova che si sente... ridere le donne, io questo ci credo. Poi è chiaro, come diceva la Littizzetto l'altra sera, grazie a voi che mi avete difeso, ma la Littizzetto l'altra sera ha detto la stessa identica cosa che ho detto io. Come lei, si sente poco, tre, dove si trova? Non viene perseguita, ha detto esattamente questo. Certo che se Hollande non fosse stato un uomo di potere e avesse venduto le baguette al bistrò, probabilmente lei non avrebbe avuto tutte queste donne, questo indubbiamente. Però vi posso assicurare, perché mi è capitato, sì, che anche uomini, diciamo, non proprio belli e anche attempati, beccano la guerra e sono simpatici, fanno ridere, sì, possono piacerti molto e ti puoi anche molto innamorare. Allora, ma è vero che Berlusconi ha bisogno di una cura dimagrante, pare che si sia ritirato in una località segreta anche per finire un libro, eccetera, ma secondo lei Berlusconi è davvero ingrassato e ha bisogno di dimagrire? Berlusconi purtroppo si è chiuso troppo in casa e quindi andare fuori gli fa bene, secondo me. Poi si ha messo su un po' di pancia e questa pancia è bene che la butti giù, insomma. Sono contenta intanto che esca dal nido, insomma, esca dal, con Toti, ma perché non riesce a fare presso. Perché non riesce a fare Toti coordinatore del partito? Perché non ci riesce? Tutto questo potere non ci riesce. Qua sfondate un portone, lo sapete con me. Ma appunto, ma perché purtroppo lui a differenza di quello che voi tutti pensate, soprattutto il mondo mediatico e politico, lui è tutto tranne che un dittatore, lui è estremamente democratico, poi si dispiace di dispiacere gli altri. Ma Renzi è molto più decisionista rispetto a Berlusconi. Berlusconi sta facendo la figura, non riesce manco a nominare, sì, un coordinatore. Renzi si porta anche dietro molti meno rapporti rispetto a quelli che ha Berlusconi, perché giustamente Berlusconi, rispetto a persone che magari, cioè, il problema è che dovrebbero essere le persone a capire quando Berlusconi ritiene a sua ragione, non che abbiano esaurito un servizio, ma che si debbano fare di Verdini, lato, Verdini essere primo in front, come dire, front office, ma essere semplicemente di lato. Questo sarebbe bello che lo capissero le persone. Cioè Verdini si deve dimettere da lato. Occupano gli spazi perché hanno il terrore di perdere il potere. Vabbè. La sento poco. La sento poco, era caduto un po' il segnale. Vabbè, comunque Verdini si dovrebbe mettere da parte, dice lei. Invece non si vuole mettere. No, io ho detto che Verdini si deve mettere da parte. Semmai al lato, ma poi avete fatto il nome di Verdini, ma non è Verdini il problema, Vari. Lui vuole cambiare, vuole rinnovare il movimento. Allora è giusto che chi ha tanto avuto, soprattutto perché si metta da parte. Legge di giustizia. No, perché non lo fa? Perché non ci riesce? Perché non ci riesce? Non è che non ci riesce. Se lui volesse, dovrebbe essere tranchant e dire alla gente fatti da parte. Lui invece che fa? Come un democratico vero, ahimè, è cristiano, un autentico liberale, cristiano, ahimè, perché io lo preferirei uomo azienda e uomo veramente dittatore, lui che fa? Cerca di far capire alle persone di farsi di lato. La gente spesso e volentieri non lo vuole capire perché, ribadisco, occupare certi posti non solo è prestigio, ma è potere, economia, è potere economico, potere di tutti i generi. E dunque lui è tentenna. Lui prima o poi ci arriva, ma lui vorrebbe, essendo un uomo estremamente intelligente, vorrebbe che gli altri fossero capissero, intelligenti, capissero che non è che lui li vuole eliminare nella storia politica. Ma perché gli altri non sono così intelligenti? Non c'è mai stata una persona, ma perché ovviamente hanno paura di perdere il potere. Ma perché non sono così intelligenti? Cioè lui è molto più intelligente di tutti gli altri, diciamo la verità. Cioè, io credo che più intelligenze come lui ne nascano poche al mondo, insomma. Questo, dice, almeno di questo datemi atto. Insomma, erano secoli, questo, no, ma è vero, questo è vero, erano secoli. Erano secoli, sì, praticamente. Secoli. Non so se secoli. Credo, no? Cioè da uno per uno secoli. Che ha a fare lui in tutti i sensi. Cosa? Sì, forse dall'epoca di Leonardo addirittura, forse. Vabbè, adesso di Leonardo. No, però uomini come lui ne nascono, insomma, pochi al mondo di intelligenze così. Forse Galileo. E di preparazione. Galileo. A chi lo paragonerebbe lei come intelligenza, diciamo? A Brunelleschi. Ma tanti uomini intelligenti della storia, comunque. Che ne so? Sicuramente uno che le viene in mente. Ma tanti, c'ha tanti profili di tanti combattenti. Cavour, per esempio, da Napoleone a tanti, ma insomma, comunque Napoleone. È un unicum, e questo nessuno lo può togliere. Napoleone. Non è che io sono una vocazione particolare, è no, che proprio Napoleone. No, ma no, non è così, credetemi. Anche io no, però Napoleone ha detto Napoleone. Come vabbè? Napoleone. No, ma l'intelligenza di Napoleone, vabbè, l'intelligenza di Napoleone, perché la statura di Napoleone, la statura di Napoleone. Comunque Napoleone perse Waterloo perché non si porta il suo Carlino dietro. A proposito, ma c'è stato un portone. Sì, ho letto leggendo la storia del Carlino, sì. Sapendo tutti che io ho un Carlino. Ma si è accoppiato con Dudu o no? No, però c'è stato un tentativo serio. Cioè? Dudu, da buon padre, da buon uomo di quella famiglia, insomma, visto che recentemente Paghi era in calore. Se la voleva ingroppare? No. Oh, è la natura, eh. Ma veramente? La natura tra ma quando è successo? Ma ce l'ha fatta o no? Ce l'ha fatta o no? Non credo, adesso lo vediamo tra qualche mese. Ma non ce l'ha fatta perché? Ma questo è un annuncio fenomenale, attenzione! No, credo di no, spero di no, per il semplice fatto. Poi, come si sa, la femmina sta a casa con la padrona e si tiene anche i cuccioli. Per no, ma questa è una ma cosa. Ma perché non è stato in grado? Perché ha avuto un'eiaculazio precoce? Che è successo? Perché non ce l'ha fatta? No, che questo è il punto. Ma c'è stato? So, perché non è che vado dietro i cani io. Cioè ma come no, ma ha detto che non ce l'ha fatta forse a finire i suoi comodi praticamente, no, per no, di capire. No, di fronte a me non c'è riuscito. Però pare che se la sia ingroppata. Io scusi no, se uso... No, non credo che sia riuscito. Pare che no. Non parlate così poi della mia cucciolotta. No, assolutamente no. Provato, è normale. Ma che vuol dire provi? Che ci ha provato? Voglio dire, quella è femmina, pure figa. Ma che vuol dire che ci ha provato? Ha provato. Vuol dire che il cane, ecco, vi rispondo così, il cane, vi posso assicurare che Dudu non è assolutamente gay. Questo non è gay, cioè lei l'ha visto in erezione, diciamo. Orca. No, dai. Però non è in grado di... Ma è anche super dotato. Solo l'ho visto che approccia con la mia cagnolina e questo. Ma è super dotato? Com'è dotato secondo lei? Ma quanto siete sciocchi. Ma scusi, dotati di un cane su. Ma vabbè, forse doveva portare, forse ci devono essere più cagnolini. Devo dire per che stimolare non ho mezzi di comparazione, francamente. Coi cani, no, coi cani, però proprio no, proprio non potrei fare comparazioni. Comunque sicuramente non è gay, sicuramente non è gay. Possiamo ve lo certifico. Ce lo possiamo certificare. Bene. Un abbraccio, a presto, un abbraccio. Speriamo di avere tanti cani, tanti Dudu e tante pughi, come si chiama? Pughi. Paghi. Paghi. Arrivederci. Ciao, tutti. Ciao. Rosa. Il grosso problema in Italia è che non si tromba più. Ma se lei le tolgono il microfono, non tromba più pure lei. Piercarlo, provincia di Varese, buonasera. Buonasera. Volevo parlare un attimo del signor Cabobo che lei diceva di rimandare Cabobo, al suo paese. Cabobo, sì, so. Cabobo, sì. Lei voleva rimandare al suo paese a scontare la pena. Beh, ma non noi... sarebbe male, diciamo, no? Però ha fatto reato in Italia, ha offeso vittime italiane in modo con l'omicidio addirittura, lo dobbiamo anche a quelle vittime di tenerlo qui, cioè deve rendere, deve pagare un debito con l'Italia. Secondo me, cioè, voglio dire, mi sembra una questione di civiltà. Siamo malconci, ma possiamo tenerlo qui a scontare la pena, no? Non lo so, io preferirei che un clandestino, cioè entrato in Italia clandestinamente, aveva già commesso dei reati, fuggito dai centri per gli immigrati, poi è andato al nord, a un certo punto piglia il piccone, ammazza tre persone, a un certo punto fuori dai coglioni, dai, su. Fuori dalle palle, poi dopo fuori dalle palle la sconta ancora meno che in Italia, cioè noi qui almeno ma possiamo non lo so, ma almeno resta là, dov'è? Ghana, dov'è? Ghana, che cos'è? Almeno sconta lì, se va fuori lì, andasse fuori lì. Ma a me sembra, ma perché, lei ci crede a questa storia del che è matto, le perizie, le cose, che no, questo no, qua no, ha le visioni di notte, quello, a queste robe qua, perché dai, tu hai fatto no, la perizia quello dai, su, no, cioè, non ci credi uno che deve fare la galera, se poi non può stare in galera deve andare all'OPG, quello che è, sono tutti matti, ha ragione, abbiamo capito, sono tutti matti questi, basta dichiararsi matto, uno va bene. Berlusconi infatti si doveva dichiarare matto, dei periti, perché Berlusconi non si è dichiarato matto? Ah, io no, beh, perché non lo è, perché vabbè, dai, adesso non esageriamo, cioè voglio dire, non allora facciamo che... così, Cabobo qui e i Marò di là. Cabobo qui e i Marò di là. Ma non c'entra, sono cose ma non sì, è una provocazione, dai. Ma sì, no, è come la Biancofiore come Renzi, a quel punto lì vale tutto, cioè. Un attimo solo. Beh, sono come zanzare. Ehi, ciao ragazzi. Ciao. Vi voglio bene, ciao. Anche noi. Daniela, provincia di Pordenone. Non c'è, chi è? È andata via? Cesare d'Ancona. Cesare! Sì, ciao! Dai, forza! Ciao, niente, c'è una curiosità per Parenzo. Parenzo, passare... non Parenzio, Parenzo. Dai, cazzo, su, dai. Perdonate, scusa. Dunque? Volevo sapere nella sua rubrica telefonica quanti numeri di immigrati c'ha. Avrò, ce l'ho qui davanti la mia rubrica, ne avrò una decina. Di immigrati? Che numeri c'hai di immigrati? Di amici? Sì, ho amici. Ah, certo, ho amici immigrati, avrò una decina di numeri. Partire dal mio amico. Sarebbe da controllare, adesso ve lo dice. Ne ho una decina. Diciamo per privacy. Ma perché hai i numeri di immigrati? Magari clandestini? No, clandestini ne avevo uno, sì, che era un mio amico clandestino. Sì, questo posso dirtelo, ce l'avevo. Ma che vuol dire il numero di un clandestino? Scusa. Ma sei stupido? Cosa vuol dire? Ti ho detto che avevo il numero di un amico, di uno che avevo conosciuto quando facevo il giornalista a Milano, sì, a Tre Lombardia. All'epoca questo era immigrato clandestino. E perché non l'hai denunciato? Ah, che sono mica un delatore, cosa devo denunciare? Era denunciato, è entrato in Italia clandestinamente senza un permesso di soggiorno normale. Dovevo denunciarlo, cosa devo denunciare? Se uno entra in Italia senza un permesso di soggiorno normale, perché era un reato all'epoca, vanno presi provvedimenti amministrativi o barra penali. Ma che sei un poliziotto? Ma non poliziotto. Sei un poliziotto? Il questore Cruciani? No. Questura, pronto? Oh, le passo il questore, dottor Cruciani. Sì, Cruciani, scusi, questore, avevo da denunciare. Avevo nella rubrica, adesso non sarà più clandestino, ma perché 10 anni fa, figurati, spero gli abbiano. Dopo 10 anni sai che si prende la cittadinanza. Comunque ho più di 10, se vuoi ce l'ho qua davanti, con esattezza posso anche dirti allora, i nomi. Ma perché no, lo voleva però sapere, Martino? Perché lo voleva sapere? No, Martino, no, Cesare, perché. È un indice della coerenza con quello. Ma che c'entra la coerenza? Quale coerenza? Ho degli amici immigrati. No, che ne sempre uno che parla sempre di integrazione così, secondo che ne so, sono 5 milioni di immigrati in Italia, in media dovrebbero un 10%. Come avviene questa integrazione? Conoscendosi o Vabbè. Ad esempio, c'ho il nome di uno di un violinista, di uno di questi che suona la fisarmonica, Vladimir Vladivysenkov, che è mi pare che sia jugoslavo. Vabbè, ma quello che c'è dell'ex jugoslavo, cosa quello è diventato Unione Europea. Tania da Roma, Tania. Nomi sono di immigrati. Tania, sono Tonia. Tonia, dimmi cara. Sì, Tonia. Allora, sono incavolata nera con Parenzo. Perché? Perché adesso è lui il razzista nei nostri confronti. Nei vostri chi? Voi ricchi. Io ho lavorato 40 anni per comprarmi casa qui. Caro Parenzo, hai capito? 40 anni certo, facendo doppi turni, tripli turni in ospedale. Ho molto rispetto per lei che ha lavorato. E dov'è il razzismo? Tanto non vi sento perché il telefono... Vabbè, il allora... Allora... E poi casa ce l'avevo in Sardegna e sono anche in un bellissimo posto di mare, adesso devo pagare per casa mia in Sardegna l'IMU come seconda casa. L'ho comprata qui perché ho lavorato per comprarmi casa e per tirarmi su una figlia. E tu questo glielo dica al governo. Parenzo. Ma glielo dica al governo questo, che c'entra io? Ma che cosa al governo? Sei tu, mi sono entrati 3 volte a rubare gli zingari qui, capito? Gli zingari, sì, rubano ogni tanto, scusa Parenzo, ogni tanto rubano gli zingari. Chi dice il contrario? Ma io non vorrei generalizzare. Ogni tanto rubano nelle case, scusa, se lo facciamo notare. Hai sentito oggi la ricchezza che hanno trovato nei campi zingari qui a Roma? Hanno trovato delle grandi ricchezze in un campo rom, questo è vero. Grandissime ricchezze, rubando a noi. E sono dei ladri quelli che hanno rubato sono ladri, ladri. Ma che cosa difendi? Io non difendo i ladri, Se uno ruba, sia esso giallo, blu... La maggior parte... Dimmene uno che lavora onestamente, dimmene. Ma cosa vuol dire? Cosa vuol dire dimmene uno? Che vuol dire dimmene uno? Di zingari che lavora onestamente, nessuno lavora. Rubano nelle case, basta. Ma allora cosa si fa? Appena scusi, gli zingari, l'ho già detto un'altra volta, adesso si arrabbierà di nuovo. Gli zingari si sa perfettamente dove vivono, perché purtroppo i campi rom sono alla luce del sole. Ma perché non accetti che nei campi rom c'è un tasso di illegalità spaventoso? Vanno a fare le tasse, ma perché lo dite così? Ma diteglielo alla polizia. Ma perché lo dite? Ma perché fate i giustizieri della notte, compreso Cruciani? Ma che cosa dite? Ma la fai parlare o no? La fai parlare cosa per sentire le solite banalità che si dicono ogni volta, vai a parlare, falla parlare che non ti sente, si accavallano le voci. È la solita banalità. Parenzo, non sono banalità, io ho lavorato una vita per avere 2 case e adesso bene per lei, giusto, sono felice per lei. Certo, te l'ho detto che lavoro fatto. Ma brava, ma sono felice per lei, ma non, io non metto in discussione questo. Per potermi pagare. E adesso la mini IMU ho pagato 96 euro. Ma no, con la mini IMU, ma perché bisogna dire cose scombinate? Ho rispetto per il suo lavoro, si è affaticato molto, si è comprato due case, sono molto contento per lei. Che cosa c'entra dire nei campi rom rubano tutti? Vabbè, ok, rubano, sì, i soldi loro li fanno così, rubando, e tu li difendi. E tu li difendi? Sì, e tu li difendi. E come? E a noi ricchi, a me quello che mi dà fastidio, io vivo dalla pensione, e che lui, voi ricchi dovete sopportare, sopportare. No, ho detto che bisogna, ho detto a Cruciani, lei ricco Cruciani, quando va con la sua, ma il suo fuoristrada, io ho paura di stare in casa mia, sono prigioniera in casa mia. Capito? Prigioniera. Per questa gente, Cabobo, mandatelo a casa sua a scontare la pena, e lì sì che hanno le prigioni come si deve. Ciao Tonia, ciao. Ciao, Cristiano, ciao. Da Modena. Pronto? Sì, dimmi. No, volevo rispondere a Parenza che dice che noi dobbiamo sopportare i rumeni, i rom che ci vengono a pulire il vetro. Sì, non, ma mi pare un problema fondamentale. Dice, ma è suonato, lo fa davvero? Ma non mi pare un problema fondamentale quello dei neri, di quelli che puliscono il vetro, eh? Non mi pare una cosa, una molestia così pesante. Ma non è il fatto della molestia, è il concetto che è sbagliato, Parenzo. Ma certo che è sbagliato. Vive di espedienti. Ma meglio di vedere, scusi, se questi qua non hanno lavoro, si inventano di pulire il vetro agli angoli delle strade e chiedono 50 centesimi, 10 centesimi, il più delle volte sputi in faccia, non mi pare un grande problema, francamente, no, questo qui. No, però rispondi alla mia domanda. Legalmente si può? Rispondi, io lo so la risposta. Ma certo che no, ma cosa vuol dire? Oh, guarda, non è che fanno un lavoro, ma non è che adesso devono aprire una partita IVA per pulire un vetro ai bordi delle strade. Beh, la povertà, no? Perché la povertà? Vuoi che aprano la partita IVA per pulire i bordi delle strade? Ma inventano la partita IVA. No, perché Cruciani adesso ricorda l'ordine. Facciamo l'ordine di quelli che puliscono i vetri. Facciamo l'ordine. Sì, ma non essere buonista. Tu spesso, perché quando ti fermi, perché non volete vedere la povertà? A te i poveri ti fanno arrabbiare, no, ti arrabbia con la povertà. No, Parenzo. Cruciani che odia la povertà, non la vuoi vedere. Quando i poveri mendicano per strada ti fa schifo. Parenzo. Questi provano a pulire il vetro, dici che ti dà fastidio. Ma in che mondo vivi? Ma in quale mondo vivi? Questo, il mondo dorato vivi. Ma io non vuoi neanche vedere uno che ti pulisce il vetro. Io non ho detto ma questo. Ma guarda che sei un bel io non è che non la voglio vedere, a me non me ne frega niente. E se allora, fanno una bella come dire politica per cui le città e per cui è proibito mendicare. Ma anche mendicare è proibito. No, pure è proibito. Cioè, tu che giustamente pulire i vetri, sostieni. Io sono contento. Dopodiché va benissimo che puliscano ecco. I vetri. No, no, ma va benissimo che puliscano i vetri. No, il ma liberale Cruciani no, ma va bene. Ma possono pulire i vetri, però bello. Se io gli dico a un certo punto, scusa, amico mio. E infatti, che succede? No, no, spesso alle non è volte così. Ma insistono, e che succede se insistono? No, no, ma infatti a me non me ne frega niente. Non faccio pulire non vetro, ne pulire vetro. Oh, devo fare la radio, vai via. Borsa. Pulire vetro. Fammi sentire la borsa. Ti fa già fastidio? Non la sento di solito. Ti turba la giornata? No. E allora? Siamo come lei, siamo come lei. Siamo come lei per mare. Siamo ancora qui, siamo ancora qui. Solo per disturbare. Io, David Parenzo, voglio bene a Dell'Utri. Voglio bene a Dell'Utri. Siamo come lei, siamo come lei. Siamo come lei per mare. Era ironico, Ma quale ironico? Ma che dici? Beh, certo, non posso mica volergli bene. Non faccio volergli bene. Ma certo che gli vuoi bene, ammetto. Ma non gli voglio bene, no? No. Marco da Pavia. Marco? Buonasera. Dimmi. Buonasera. Sono in trasmissione? Sì, fino a prova contraria, sì. Sì. Allora? Dunque, volevo dire che usare gli slogan. Un attimo. Pronto? Sì. Pronto? Sì. Sì. La Zanzara? Chi è la Zanzara qui? Eh beh, mi avete chiamata voi, non ho chiamato io. No, ma ha chiamato lei. Col cavolo che vi ho chiamato. Ma io sì, non ho chiamato ma ha chiamato lei. Ma ben quanto tempo fa? Ma oggi. No, guardi che si sbaglia, io non ho chiamato proprio. Ma questa è la Zanzara, io sono Cruciani, qui c'è anche Parenzo. Lo so, Cruciani, stai giocando e scherzando. Ma io non sto giocando. Ma non c'è tripa per gatti, caro Cruciani, ma non io non ho chiamato nessuno. Ma ha chiamato, capito? Abbiamo trovato una chiamata, abbiamo trovato a centralino, stiamo richiamando delle persone. Boh, ma allora si vede che Sara, cioè io non ho chiamato, se qualcuno ha schiacciato. Ma scusi, lei chi è? Lei chi è che abbiamo un numero, dice un numero che è arrivato? Cruciani, addirittura mi chiami in diretta? Ma chi è? Io Gianna? Chi è? Gianna, chi è? No, come bravo, si chiama? Bravo, Gianna. Bianca. Cruciani. Bianca. Sei un volpone, mio caro, ma non credere di aver trovato una cretina. Bianca. Bravo, ti sei innamorato di me? No. Questo può essere. Questo. Brava Bianca. Questo no. Hai capito? Io invece capito? Vorrei darti in regalo Cabobo. Perché non ospiti a casa Hai tua? Visto che roba? Perché non ospiti Hai a casa tua Cabobo, Bianca? No, il Cabobo non è italiano. Il Cabobo, caro mio, è il Cabobo, che non è il bambù. È casa vostra, è casa tua, abita a Milano da te. No, veramente non no. Non abita a Udine, Cabobo, abita a Milano. In secondo luogo, parla la lingua della signora Kenge, giusto? Si chiama così. Quindi, sì, per logica delle cose, per comprensione, dovrebbero stare insieme, giusto? No, signora Bianca, ma lei di una volgarità. Ma che vuol dire dovrebbero stare insieme, scusi? Perché almeno si capiscono. Ma signor Cabobo, è un assassino, non ha nulla a che fare con la Kenge. Che discorsi, però se no, dai, per favore. Vabbè, no, per favore, bravo, diciamo noi. Bianca, comunque abbiamo ricevuto un numero qua, c'è un numero che è apparso oggi sul nostro cellulare, era lei, evidentemente. Sul tuo cellulare addirittura? No, sul mio, su quello della redazione. Un numero e abbiamo richiamato. Non è stata lei. Non esiste, Cruciani. Vabbè. I giochini non esistono. Se qualcosa è successo, cioè non è ovviamente, ti puoi immaginare quello che io dovevo dire, Cruciani, l'ho già detto. A chi, a Parenzo? E mi sembra, ascoltami bene, perché a Parenzo, quello che dovevi dire l'hai detto? No, l'ho già detto, ma a prescindere da Parenzo. Ma che ne pensi di Parenzo come personaggio? Che cosa penso? Che ne pensi? Che cosa vuoi che ti dica? È la verità. Cioè, lasciamo la verità. Perdere, cioè se io parlo... Lo so che tu sei stimolato dalla mia intelligenza. Ti sembra troppo strana che una donna ragioni così. Sono anche eccitato. Esatto. Può essere, caro. Bianca da Udine, sono eccitato da Bianca da Udine. E chi ti dice che non sia così? Perché mi hai richiamata? Perché no, stai inventando tutte queste storie per chiamarmi? Perché sono segretamente innamorato di te. Visto? È determinante la cosa, anche se tu la butti sul ridicolo, ma sei rimasto scioccato. Ma è reciproca? No, lo so, cioè io non posso dire che ti amo, no, di certo. No, No, per niente? No. Proprio per niente? Ancora, vabbè, peccato. Sei innamorato? Ti sei innamorato? Ma, Bianca, diciamo che mi piaci. Ah, visto? Vedi come... Hai visto dove ho beccato? Hai visto che ti ho capito? Lo so. Altrimenti non saresti mai riuscito a fare un'altra telefonata di nuovo a chiamare. Perché? Una certa attrazione ce l'ho. Indiscutibile, non c'è dubbio. Tu adesso cerchi di girarla, ma non funziona, non è così. Non è così. È reale, è concreto che la cosa ti ha talmente stimolato che hai dovuto richiamarmi per due volte. Da morire. Non sta tenendo l'idea. Ciao tesoro. Ciao. Altro che ciao Cruciani, ciao. Ma va a cagare, detta in termini, va a cagare! Alberto da Milano, Alberto. Pronto, buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Dimmi. Pronto? Dimmi. Ah, lei è inverso Parenzo, eh? È inversamente proporzionale alla Chiesa. Sì, ma dov'è? Dove si trova lei, Alberto? Che sto guidando l'autobus. Come sta guidando l'autobus? Il telefono intanto. Sto guidando l'autobus, c'è il mio lavoro. Cioè lei è un autista a Milano di autobus comunali, l'ATM. Sì, sta guidando, ma mi raccomando, con l'auricolare. Ma comunque è vietato anche questo, Alberto. Lo so. Vabbè, comunque dai, non la denunciamo. Non diciamo quale linea almeno. Che linea è? Non lo dico. Che linea è? No, sono fuori Milano. Licenziare. Ma che fuori Milano? Ma quale fuori Milano? Sento le rotaie. Sono fuori Milano, che ne devo dire? Ma è la TM, eh? Sì, è la TM, va anche fuori Milano. Sì, lo so. Fuori Milano. Ma quanta gente ha sull'autobus? Non si stanno accorgendo? No, quattro persone sono in fondo. Sono quattro, ma sono tutti in fondo. Sono in fondo, non si accorgono che al telefono, no? No, tutti abbonati comunque, Bene. Hanno tutti l'abbonamento. Tutti l'abbonamento? Ci sono i migranti a bordo? Ci sono immigrati a bordo? Sì, due in fondo. Hanno sì, l'abbonamento, vero? Certo, ma che me l'hanno fatto vedere. No, lo dico per il signor Varin. No, me l'hanno fatto vedere quando sono salito dalla porta davanti, me l'hanno fatto vedere. Ma sarà stato scaduto, figuriamoci, sono immigrati. Aspetta un attimo. Fermo lì, Alberto. Ok. Efe? Dimmi. Cara. Sì. Come stai? Sono Cruciani. Ciao. Come va? Cruciani? Sì. Oh, bene. Come stai, tesoro? Bene, interessante. Ti disturbo? No. C'è anche Parenzo con me. Salve, signore. Ah, quello un po' meno, Ti piace un po'. Meno male. Come va? Sì. Ma ho letto questa cosa sul Corriere della Sera, che vuoi trovare lavoro. Ma ti avevo detto anche quel giorno lì, Cruciani. Sì, però Efe, ma scusa un attimo, perché vuoi trovare lavoro? Un lavoro serio, diciamo, un lavoro serio. Non è che non fai il lavoro serio, fai la prostituta, va benissimo. Ma... Allora, credo di essere fin troppo intelligente, fin troppo conosciuta, fin troppo... Sì. Come dire, ho tutte le possibilità di poter fare anche un lavoro normale, tantomeno che vorrei fare magari qualcosa da parte. Ma a te piace fare la prostituta? A me mi piace fare la prostituta perché faccio una cosa che tutti vorrebbero fare. Cioè cosa? Cioè sesso, scopare. Scopare, tu non sì. vuoi scopare sempre, non vuoi trovare sempre qualcuno che ti stucchiasse, ti toccasse. Sì. Anche a me mi fanno questa cosa qua, quindi ovviamente è piacevole. Certo, però non c'è dubbio. Quando esco, quando vado in giro, quando vado in un ristorante, quando vado in un centro commerciale, la gente mi conosce. La gente mi conosce. Dunque? C'è chi viene e vuole fare una foto con me, c'è chi mi complimenta, c'è chi mi ferma, mi chiede proprio un autografo. C'è chi ti tocca? C'è chi ti tocca? No, se mi tocca forse no, magari mi osservano e mi guardano, poi quando torno a casa ci pensano di me, visto che sono con loro figli, con loro moglie, un giorno dopo quando torno al lavoro mi chiamano anche e vengono come clienti, questo anche succede. Questo succede, certo. Però io dico una cosa, scusami, però... Vuole veramente trovare un lavoro normale? Ho capito, Efe, però il problema è che tu hai tappezzato Milano con questa storia giusta della legalizzazione della prostituzione, cioè pagare le tasse. Sì, perché ho praticamente 500.000 euro da bollettino da pagare, in cui hanno fatto vedere anche da Santoro, 425.000 uno, 19.000 secondo, 29.000 il terzo, per l'Equitalia, che dovevo pagare in 6 giorni di tempo. Ma quella per che cosa, scusa? Per 1 milione di euro che ho messo in conto corrente in ultimi 5 anni. Ti vogliono far pagare le tasse? Lui dice: io le tasse le voglio pagare sul serio, va bene, d'accordo. Sì, tu hai fatto allora, con questo lavoro che sto facendo, le tasse non posso pagare. Ho capito, però... Se riesco a trovare un lavoro... Ma si guadagna molto meno, Efe, sì... Io voglio provare, io voglio avere una vita. Ma che lavoro vorresti fare? Che lavoro esempio, vorresti fare? Allora, volevo aprire un negozio, però la burocrazia purtroppo mi ha fatto avere tanta paura. Ma negozio di che? Volevo aprire un negozio normalissimo, che volevo vendere cravatte, giacche, camicie, bello. Calze. Ma per si guadagna poco. Cioè, immagini, ma che te ne frega di tutto questo guadagno? Chi ne sa quanti soldi ho? Magari non ho più bisogno di fare nulla. Ho cioè tu vuoi un lavoro rispettabile. Per trovare un fidanzato, per trovare qualcuno. Voleva aprire questo negozio anche per divertirmi. Tu entri in negozio e ti dico: ah, salve signor Cruciani, come posso essere utile? Cosa cercavo? Tu dici: ah, io vorrei, non so, una cravatta, o piuttosto stasera ho una festa che ho comprato un paio di pantaloni color grigio che avrei proprio bisogno dello stesso colore del tessuto come due calze, perché metto pantaloni un pochettino corte che le calze si vedono. Voglio fare un e po' dunque? Così, diciamo. Io ti consiglio, dico: guardi, ci sono queste parole. Vabbè, vuoi aprire un negozio? Volevo aprire un negozio, è andata purtroppo male. Oggi come oggi non posso assolutamente aprire un negozio, visto che non ho più niente, ho dovuto vendere tutto, perché altrimenti forse... Ma poi tu hai detto che lo vuoi fare per la tua mamma anche. Sì, io voglio fare anche felice mia mamma. Perché tua mamma come no? Come scritto in quell'articolo, in quella non sopporta che tu fai la prostituta. Altre volte. Non sopporta che fai la prostituta. Beh, questo. Mia mamma mi conosce molto bene, per lei che i fai? Primi tempi ovviamente molto problematica, adesso dopo tanto tempo che faccio questo lavoro, che mi conosce adesso in camera, ho abitato un meraviglioso appartamento per la mia famiglia, per i miei 3 cani e per mia mamma in via Turati sopra Cartel, quindi quest'estate in via dei Giardini, in via Maurizio Marchi, dove abita anche Galliani, tanto per intenderci, cuccherò tanti clienti. Ma è appunto, ma tu sei fatta per fare di Milano. Ma no, sei fatta per fare quel mestiere, non sei fatta. ma non c'entra assolutamente niente. A me ma mi perché piace convincerla a continuare a fare questo? Io non dico di no, mi piace. Ti piace, dai. Ma sono assolutamente sprecata, perché ormai sono molto conosciuta, potrei fare molto di più di soltanto. Allora, aspetta un attimo che sto chiamando, c'è una scopare o però... altre cose. Lo so, ma siamo in onda? No. Sì, certo. Sì, sì. Alberto da Milano, Alberto è un autista. Alberto? Sì, sono qua. Ciao caro. Allora, tu stai guidando un autobus e sei al telefono con la zanzara. Vergogna innanzitutto, vergogna. Ho un auricolare, uno tra l'altro, neanche tutti e due. Vabbè, uno. Ma questo sono... Dai, ma lascialo tranquillo, perché vuoi farlo licenziare? Ma figure se lo voglio far licenziare, assolutamente. Se mi licenziano, se prendono qualche provvedimento nei confronti di Alberto, facciamo una grande campagna. Ma no, perché vuoi dire il nome? Vabbè, però tram, bisogna dirlo, l'ha detto lui, sto in tram, sto guidando, non è che l'ho detto io. L'ha detto lui, Alberto sta guidando un autobus che non ci vuole dire il numero, fuori Milano. Dell'ATM, scusa, è troppo stronzo, non le dico il numero. No, ma voglio dire, ha ragione Febal, che è una prostituta trans molto conosciuta. Hai visto a Milano tutti quei cartelli? No, tutti quei cartelli. No, non ho avuto modo di vederli. Comunque, vabbè, ha ragione su che cosa? No, dice io voglio un lavoro più rispettabile. Mi sono rotta le scatole di stare a scopare dalla mattina alla sera, giusto, Efe? Non è proprio così, ma ripeto, sono sprecata, sono molto conosciuta. Sei sprecata. Vabbè, avere ma non è che... anche una vita un po' più normale per poter usufruire tutte le possibilità di essere una persona normale. Con il mio lavoro sono felice, ma vorrei veramente riprovare anche trovando un lavoro anche normale, anche condurre un programma. Per esempio ha fatto Platinette su radio, no? Vabbè, Platinette, mica, ho capito, ma che c'entra? Posso fare anche come te un programma dedicato a me, come io ho condotto un programma. Febal vuole fare un programma. Bene, no, Febal on air. Un programma radiofonico, non capisco perché non dovrei fare. Ma sì, per carità. Stavo guardando in porno in internet, tu mi chiami all'improvviso, sorpresa, sono Cruciani, come fosse che non so, un cliente, un qualcosa. No, cliente, no, per carità. Perfettamente. E io vorrei anche condurre un programma radiofonico, non capisco perché ci sono tutti l'unica persona in cui è stato molto intelligente fu il direttore di Tele Lombardia, che signor Ravezzani, sì, Fabio Ravezzani, che mi ha dato fare due possibilità di condurre due. Però scusami, Efe, ma adesso... No. Io ho condotto Efe Gole... Vabbè, lo sappiamo, scusa, Efe... Non interessava niente della mia vita privata che facevo... Ma no, ma lui l'ha fatto anche gli piaceva, era giusto farlo. No, ma sicuramente, ma tutti fanno le cose perché è piacevole, perché magari portano pubblicità, portano certo soldi... Certo. Scusa, Efe, ma tu... Quando ma ho toccato il tuo pacco due mesi fa... Quando, scusi? Quando ho toccato il tuo pacco... Ma non è vero quello... Ah, di Cruciani... Ce le abbiamo anche le foto. Ma è una foto sfinta. Ah, è vero, dai, che gira sta foto, è vero, è vero. Ma se le piace così... Che è successo da quel giorno in poi? Che è successo? Niente, che ti ho portato tanta pubblicità. Io mi sono scusato, un giorno dopo ho mandato l'email al vostro... Ma sì. Ho detto, guardate, scusatemi, magari non dovevo... E la risposta fu dal vostro redazione, mi hanno detto, Efe, non ti preoccupare, è tutta pubblicità, quindi... Chi l'ha detta qui, sta cosa? Questo qualcuno dei miei assistenti, maledetti. Faccio un appello anche a Ferruccio De Bortoli, io sto chiedendo un articolo da lui e lui non mi dedica un articolo degno di me. Cioè vuoi scrivere sul Corriere della Sera? Sul Corriere, tu puoi leggere che una serpente è entrata in casa a California, ha morso un bambino di 3 anni che non ce ne frega assolutamente niente. E invece? Sono qui come una prostituta dalla Turchia che dovrei pagare 500.000 euro all'agenzia. E non ti fanno scrivere su Corriere della Sera? E non mi fanno un articolo degno di questo problema, che ci sono 40.000 prostitute che non possono pagare i tassi. Vabbè, ma io voglio capire una cosa. Quanti clienti hai avuto oggi? Quanti clienti hai fatto oggi? 8. 8? 8? Come 8? Pensa che volevo godere. E invece? Se non ce l'ho fatta, alle fine sono un pochettino triste. Forse domani ce la farò. Cioè, con 8 persone niente? Con 8 persone purtroppo hanno durato un po' poco, mi è andata bene, purtroppo no. Ciao cara, ciao, siamo al top. Ciao, problemi. Alberto? Ancora qua, io volevo dire a Parenzo una cosa, che lui è inversamente proporzionale alla Chiang, al ministro Chiang, nel senso che la Chiang ogni volta che apre bocca fa guadagnare i voti alla Lega, Parenzo ogni volta che apre bocca fa perdere i voti al Partito Democratico, cioè l'autista dell'ATM. A domani 18:30, ciao.